Welcome, Federico. The system is ready to jack in. Benvenuti a tutti quanti, oggi siamo un gruppo molto folto di giocatori di vecchissima data, vecchia data, dai, insomma, non vecchissima. E forse Riccardo e Francesco sono i più antichi di Netrunner in Italia, perlomeno, insieme al Paddo. E siamo quindi appunto Riccardo, a.k.a. Flatline. Io ci sono sempre, anche se probabilmente parlerò poco, visto che siamo tanti. Poi Francesco, a.k.a. Baralai sul forum. E poi c'è una news. Presentati da solo. Salve a tutti, sono Roberto, Vifo Viennetta sul forum, d'altronde me lo sono scelto io. E giocatore da quasi un annetto oramai, diciamo. Quindi insomma non vecchissimo, ma nemmeno nuovissimo, insomma, mettiamola così. E salve, perché ci siamo ritrovati? Perché chiaramente è uscita definitivamente, anzi sta già navigando verso le nostre case, Honor and Profit. E quindi dai, ci mettiamo qui a fare un po' di commenti. Vi chiedo anche un po' velocemente, come dire, al servizio un po' della facile fruibilità del podcast, perché altrimenti facciamo due ore di programma. E chiaramente le carte dove ci sarà da dire diremo, però insomma quelle dove dici vabbè, questo è un 1, ciao, le possiamo anche prendere così, prendendoci magari qualche insulto da chi invece ama quella carta e non gli avrebbe mai dato un voto basso. Partiamo subito? Ci siete? Ci siamo. Allora, partiamo dalla Pronti. Corp. Partiamo dalla Corp. Nuova identità. Harmony Medtech. Biomedical Pioneer. Questa è un'identità Gintechi, chiaramente, perché tutto il set è dedicato, per quanto riguarda la Corp, a Gintechi, e per quanto riguarda il runner è dedicato a gli Anarch, che sono quelli che se lo meritavano di più. Ah no, scusate, è dedicato ai Criminal che non vincono mai, non sono mai i primi nelle cose, vabbè, niente, così un po' di sarcasmo, un po' di cattiveria. Ma io personalmente penso che nel momento in cui hanno deciso di fare Honor and Profit l'hanno programmata con tantissimo anticipo, ed era il periodo in cui Noise Personal Workshop spopolava, penso, non lo so, secondo me era quello. Me lo auguro. Cioè, io penso che sia stato quello il ragionamento che hanno fatto. Ah, aspetta, Shaper è messo un po' male, però non è messo male tanto quanto, cioè è il più messo male, allora il primo lo facciamo per Shaper, che così li risolleviamo un po'. Il secondo però, cioè, dovremmo farlo insomma per i Criminal, perché tanto sta, cioè, c'è Noise che sta spopolando, bisogna un po' che calibriamo. Già, poi figuriamoci se ci sarà bisogno di carte che vanno a cercare le agende per un mazzo che non ne ha bisogno, cose del genere. No, infatti. No, guarda, chi se l'immagina un po'. Se avessero no, guarda, ti dico, no, niente di sgravato, guarda, se avessero fatto una carta che ti andava a cercare accounts iPhone, era proprio la fine. Aspetta, l'hanno fatta. Vabbè, basta col sarcasmo, dai. Okay, andiamo okay, dritti iniziamo. Al punto. Harmony Medtech, Gintechi. È un'identità, interessantissimo il fatto che devi mettere al minimo 40 carte, chiaramente hai un pochettino meno di influenza da poter spendere, 12, uno standard ormai affermato con Chaos Theory. L'abilità dice ogni volta che, ogni giocatore ha bisogno di un punto agenda in meno per vincere la partita, quindi entrambi i giocatori 6 punti, o cercano almeno, di raggiungere 6 punti, sì esattamente. E che mi dite? Si giocherà? Facciamo a turno, anzi io vi chiamo con i nomi, Riccardo. Va bene, okay. Beh, guarda, si giocherà secondo me sì, perché sono tutte a parte una interessanti identità del set. Il problema è che con questa identità o ci fai un fast advance, e se sì. Ci vuoi fare il fast advance lo fai NBN, non vedo altro motivo spinto per farlo Jintaki se non perché ti piacciono i Jintaki. Oppure il vantaggio è che ti porta al match point prima questa, e sì, i Jintaki sono forti quando sono sul match point con le trappole. Sì, sì, sì. Però onestamente non lo so, la proverò come fast advance per il gusto di provarla, ma cioè secondo me non è la più competitiva del mazzo, però è una buona identità, giocabilissima, si vedrà giocare secondo me. Roberto? Allora, anche secondo me il discorso, io per la prima volta che è stata spoilerata, diciamo, l'idea è stata tutti quanti è stata: ah, Jintaki Fast Advance. Poi in effetti, vedendo anche il set completo, c'è una carta che poi di cui parleremo più avanti che la rende ancora più interessante, secondo me. Però è pure vero che Jintaki non è proprio l'identità da Fast Advance puramente. Sono d'accordo con Riccardo sull'idea del match point, sul mettere paura, cioè un Jintaki che è arrivato a 4 e poi gioca magari, posso anticipare il nome della carta ad esempio, che tanto l'abbiamo nello stesso set, un Mushin no Shin, magari con la carta non protetta, che fai? Che fai? Cioè sta a 4, lascia una carta con 3 avanzamenti. Cioè, diciamo che secondo me, poi ne parleremo più avanti, qui i game di Jintaki sono sempre più tremendi, mettono sempre più paura. Non so effettivamente, non saprei come impostarlo un mazzo del genere, però al momento, dico la verità, anche con tutti gli spoiler attuali non riesco a vederlo. Lo faranno tanti e scoprirò che è il mazzo più forte del mondo, però non lo vedo ancora al momento, nemmeno io. Se Francesco, tanto, come lo faresti? Un Fast Advance Jintaki? No, non credo che lo farei. Quindi trovo comunque che questa... No, trovo che questa identità sia senz'altro bella, perché apre una possibilità che Jintaki prima non aveva. Aveva, ma più difficilmente, perché a quel punto Dispari era veramente un problema prima. Perché comunque Jintaki le sue 3-2 ce l'ha, ne uscirà un'altra, una sola purtroppo, che ne potrà mettere in queste espansioni. Insomma, può avere il suo senso. Apre una possibilità che magari non è Tier 1, però può avere sempre l'effetto Jintaki, nel senso che tutti bene o male sappiamo come comportarci contro un Fast Advance HB, tutti sappiamo come un Fast Advance NBN, non vuol dire batterli, vuol dire sapere come giocare un nuovo tipo di Fast Advance, cioè una nuova fazione che riesce a Fast Advanceare in una maniera ragionevolmente, apre una possibilità, e anche nell'ambito torneistico può avere magari i suoi risultati, ecco. Vabbè, proprio partendo da questo, dai, presupposto. Anche Jintaki alla sua cartina Fast Advance alla stregua di NBN e di Biotic Labor, che è Trick of Light, insomma, esatto, il suo lavoro lo potrebbe anche poi riuscire a fare e portare a casa. Passiamo oltre, voto okay. Complessivo che gli volete dare? Io gli do un 2, ve lo dico. Per me è un 3, 2 su 5, un 3 e mezzo. 5, anzi. 5, sì, 5, per me è un 3 per il 40-12, perché volendo si può trickare potentemente con un tag and bag, col fatto che ci sono 40 carte. Sì, sì. Si influenza, sì, si possono spendere tranquillamente. Diciamo che mi metto anch'io sullo stesso voto al momento. Poi magari con le nuove espansioni diventa qualcosa di più pericoloso, ma al momento sì, poi per me siamo su buona, ma non eccelsa. Ok. Nisei Division. Cosa fa sta Nisei Division? Sempre un'identità 45-15, quindi standard. In ogni momento, in cui in qualsiasi momento il runner rivela crediti spesi in maniera segreta, quindi diciamo per i trick psi, tutti quegli effetti psi, ottieni la corporazione prende un soldino. Diciamo che sì, non lo so, vi dico subito la mia, che poi, cioè, secondo me questa identità non si giocherà, soprattutto alla luce delle altre e alla luce dell'identità core. Poi ditemi voi, magari c'è un trick che non vedo, non so, Caprice Nisei a go-go, però insomma, vediamo. Guarda, io me lo auguro che non si giochi, perché se questa identità si gioca significa semplicemente che hanno cominciato a sparare fuori carte psi che sono brutte. Le carte psi sono un'altra meccanica casuale che viene inserita in un gioco e non piacciono per niente. Quindi anche qualora diventassero, diciamo, molto comuni, tanto da portare a giocare questa carta, questa è la versione sfigata di Engineering the Future. Quindi onestamente non la vedo proprio una carta che si giocherà, onestamente. Roberto? Allora, sì, il discorso è questo. Ovviamente questa identità va letta assieme adesso dell'espansione, perché prima le carte Psy, se escludiamo Caprice, non erano Bullfrog, che è brutta e basta fondamentalmente, e Snowflake, che è carina. Diciamo, fondamentalmente, imbottendo un mazzo di carte Psy, e alcune nuove sono... Poi lo vedremo, anche se la meccanica posso capire. Poi andando ho scoperto che ha una meccanica poi anche presente nell'originale, ma... per una carta, fondamentalmente, sì. Per Too Many Doors. Sì, fondamentalmente sono d'accordo con Riccardo quando cita Spyro ed Engineering the Future. L'idea è quella, cioè che se spendi 0 guadagni 1, se spendi 1 va in pari, se spendi 2 recuperi 1. Al momento un mazzo intero basato su queste carte, da giocarci contro, penso sia un generatore di improperi assortiti nei confronti dell'avversario che l'ha montato, e soprattutto la partita sarà lunghissima. Detto questo, sì, è un'idea carina, però anche adesso, insomma, non, nemmeno io la vedo molto competitiva. Attenzione, ecco. È uno dei pochi effetti che ricorre più di una volta all'interno di un turno. Questo è vero, questo, cioè potenzialmente, sì, sì, questo non ci avevo pensato. Però appunto vuol dire imbottirsi il mazzo di quelle carte. Sì. Sono abbastanza forti da giustificare un mazzo standard classico 45-15? Boh, non lo so ancora. Non... Facciamocelo dire da Francesco. Semplicemente no. Cioè, sebbene, allora, idealmente questa identità può portare fino a, non lo so, 3-4 crediti nelle tasche di Gin Tech, supponendo che, non lo so, il runner si schianti contro i sopracitati ice, oppure riveli cose particolari che triggerano questi effetti di scommessa. Ma tutto sommato, qual è il vero vantaggio di questa identità? Cioè nessuno, nel senso che questi quattro crediti, come si diceva prima, probabilmente vengono comunque riammortizzati, rispesi per far avanzare la meccanica stessa. Cioè sono parte comunque della meccanica. Conseguenzialmente tanto vale cercare un beneficio diverso, un beneficio più incisivo da come può essere un potere economico vero, come può darti il Replicating Perfection con i Sandy, un potere offensivo come la base. Insomma, secondo me, per me no. Allora, dico l'ultima, Riccardo, al contrario di te, io penso che invece la meccanica Psy sia molto bella, per il semplice fatto che crea una sorta di alone di incertezza e quindi moltiplica ulteriormente quello che può essere la paranoia o comunque l'incertezza sul fronte del runner, cioè soprattutto, chiaramente sto parlando di Caprice 6 in generale, però il runner viene un po' sbilanciato nel momento in cui non può più farsi i suoi bei contini, dice ok, adesso allora passo questo, poi passo quello, poi forse passo quest'altro e entro dentro e rubo l'agenda oppure faccio quello che devo fare. Nel momento in cui la corp ti mette in una situazione in cui non ti puoi fare i conti, secondo me mette off balance molti runner, ma poi di questo ne possiamo parlare anche, come dire, guardando le altre carte, perché tanto siamo nella fiera del Gintechi, quindi ti rispondo subito con una cosa molto facile, e per me è proprio quello il problema. Cioè Netrunner è un gioco di economia, sì, di conti, sì, di insomma di fare giochi mentali anche di altro tipo, come può essere quelli che fai in un Never Advance. Quando il gioco mentale diventa scommetto alla cieca, sì, capito? Cambia molto la dinamica del gioco. L'unica è cosa... una scommessa, non è più un gioco mentale. E a me questo non piace. Già il fattore casuale delle agenzie è una cosa che un pochino rompe questa struttura scacchistica di Netrunner. E la meccanica Psy è una cosa ulteriore. Se la metti poi su Caprice 6, quella lì è stata proprio una carta sbagliata, secondo me. Però, de gustibus. L'unica cosa dove mi permetto, poi passiamo alle altre, se no è la fine, è che questo ragionamento della casualità delle Psy, però, secondo me si scontra con un discorso che potrebbe essere approfondito, cioè che la meccanica è casuale quando i due giocatori hanno lo stesso numero di crediti. Ma se si riuscisse a impostare un mazzo e fare in modo un po' denaro, cioè, adesso vedo. Sì, ma anche adesso vedremo che a breve inizia a profilarsi la possibilità che Jinteki inizi a taggare in alcuni casi. Sì. E questo con magari con importando dei closed accounts o delle cose del genere cambia totalmente la dinamica upside, perché se il mio avversario è a zero, sì, il risultato non è più casuale. E quindi questo lo vorrei approfondire come discorso, cioè da vedere. Poi sento sbuffare, sento. No, c'è cioè questo ragionamento è vero se non fosse che il 95%, cioè tutte tranne una, le carte che fanno Psy sono reattive e non attive. Per cui c'è cioè, comunque il runner che ha la gestione in veto. Conseguenzialmente tu non potrai mai avere la certezza che sia zero nel momento in cui triggeri uno Psy, tranne uno in particolare. Va bene, dai, ci arriviamo. Ok. Quindi diciamo... possiamo dargli un voto, però in generale insomma la parte in generale negativo rispetto alle altre mi riservo il diritto di poterlo rivalutare a fronte di magari mazzi strambi che escono fuori, che magari rompono la routine. Per ora secondo me è un 1 per sotto tutto, è chiaro, se incominciano a imbottire di Psy questa carta potrebbe diventare giocabile. Adesso sono troppe poche e mi auguro che non diventino mai più di quelle che sono. Ok. Vabbè, no, io sì, gli do un 2, insomma, per ora. Volete votarlo oppure, insomma... No, 1 per me, no. Non... Sì, è basso anche il mio voto, non... cioè, nel asterisco, senso... non pervenuto, sì. Diciamo così, fino a che... Non applicabile, va bene. Non applicabile. Tenin Institute. Allora, questa ci piace, secondo me, Allora... quando il tuo turno comincia puoi mettere un avanzamento su una carta se il runner non ha fatto una successful run durante il suo precedente turno. Cioè il runner nel precedente turno, che ne so, ha fatto recovery perché gli hai tirato via un casino di carte e si caga in mano, oppure se prova a fare delle run sa sicuro che ci finisce fritto, e tu nel tuo piccolo fondamentalmente guadagni un click e un credito all'inizio del tuo turno. È così o no? È un gioiellino questa carta, io lo adoro, mi piaceva. Questa è stupenda. Influenza carte standard, 45-15, ma lo sapete già. Questa è la carta perfetta per fare finalmente un Never Advance Gint. Sì, perché il problema grosso... Il trappolone! La cosa eccezionale è che il problema del Jintaki è che i Never Advance avevano le 3-2 e ti servono quelle per portare a casa la partita. Sì. Il Jintaki non ne aveva, quindi si doveva imbottire di agenda e non finire con gli ovvi rischi del caso. Questo fondamentalmente ti permette di giocarti le 2-4. Sì. Nel tuo Never Advance le 2-4 Jintaki sono anche piuttosto carine. Oltre e che 2-4 fra parentesi, visto che è uscita adesso quella che costa 4 da rubare. Sì, ma anche un bel Nisei MK2 che sennò è una grande agenda se sì, te la riesci a portare. E anche un'altra che arriva adesso che non è malaccio, insomma, c'è da vedere. Quindi secondo me questa è l'identità che mi piace di più come tipologia di gioco, come la cosa fantastica di aprire e rendere fattibile una nuova tipologia di mazzo, che secondo me è la cosa principale che le nuove identità devono fare. Sì, cioè che tu fai, per dirti, la seconda identità in EBN non è nient'altro che un'estremizzazione del fast advance. Vabbè, sì, ma lo posso fare anche con la principale. Questa invece ti apre la possibilità di fare un mazzo che altrimenti non avresti potuto fare. È veramente un gioiellino, una buona abilità molto forte. Gran carta. Concordate? Sì, se posso... Le chiave che magari sfuggono leggendo la carta ogni tanto sono innanzitutto che l'advancement si può mettere su una carta qualsiasi. Corretto. Il che la rende ancora più pericolosa, perché quella cartina lì con un advance potrebbe essere uno snare, potrebbe essere qualunque cosa. Sì. E già questo lo rende pericolosa. È una batteria per i segnalini sugli ice, eventualmente. Che vuol dire anche Trick of Light, fondamentalmente, da questo punto di vista. Cioè, alcuni dicono, i maligni dicono che questa è la versione bella della seconda identità Wayland, che è usata fondamentalmente per avanzare gli ice e poi giocare Trick of Light o cose del genere. E altra cosa fondamentale che interagisce con altre carte di questa espansione, che magari non sfugge all'inizio, deve essere successful. Certo. Quindi un'apertura di primo turno con doppio ice sui centrali, lasciando liberi gli archivi. È vero che al primo turno è così, ma adesso non solo c'è Shock in giro, ma c'è, l'anticipiamo il nome e poi ne parleremo dopo, CQ, Sì. E improvvisamente entrare sugli archivi è brutto, è sì, brutto, sì. O può ammazzarti, quindi insomma a seconda dei casi. Difficilmente difficilmente accetterà l'avversario, però no, esatto. Comunque ne parliamo, no, è bella anche secondo me, è molto, molto fastidiosa da giocare contro, oggettivamente. Concordo anch'io, è senz'altro un'identità potente, più che altro è, diciamo, io la late game beast, nel senso che è vero che c'è questa minaccia dagli archivi, però tutto sommato, soprattutto all'inizio, è una minaccia quantomeno trascurabile, la run sugli archivi che ti possa danneggiare a livelli irrecuperabili. Il punto fondamentale è che in un late game in cui tu riesci a fare dei fort, cioè a coprirti 3-4 server con un paio di ice, quindi stiamo parlando di mid game, late game, quelle fasi lì, diventa un'abilità che triggera molto molto spesso. Però, diciamo, però sarebbe interessante fare una ventina di partite e vedere effettivamente quanti avanzamenti ci si mette, perché la run deve essere successful, ma i Jinteki gli end run non ce li hanno. E però hanno soltanto la Caprice e qualche cosa di marginale, per cui devi importare con delle influenze. Ricorda, cioè, una cosa, che tu le vuoi far fare le run come Jinteki, quello è il grande vantaggio. Lo scopo del Never Advance non funziona se il runner non fa run. Quindi siamo d'accordo, però l'abilità non funziona se il runner le fa con successo. C'è questo piccolo paradosso che bisogna a lì gestire. È il punto. Cioè, l'abilità funziona perché sta forzando il runner a fare le run. Sta funzionando l'abilità, non ti sta facendo mettere un segno, io sto obbligando il runner a fare le run. Sì e no. Poi diciamo perché... Vai, vai, dimmi. No, diciamo, poi diciamo, in questo caso, almeno secondo me, è vero che ci integrano agli underrun, ma io almeno tre ice wall qui dentro li sto mettendo, secondo me. Poi, ok, naturalmente. Non so neanche, magari Shadow iniziasse pure interessante potenzialmente qui, cioè non quelli brutti del Genesis, anche se prenderebbero segnalini, cosa che non potrebbero prendere normalmente. Però ecco, avendo 15 di influenza, perché se avessi avuto di meno sarebbe stato un problema, ecco, anche secondo me. Avendo 15, importando quelli giusti che hanno un vantaggio avendo i segnalini, già cambiano un po' le cose, secondo me, da questo punto di vista. Poi, sono un'impressione. No, ma infatti, cioè, ho detto soltanto che la difficoltà iniziale nel deck building sarà riuscire a fare in modo che, se vuoi sfruttare le abilità, le run non siano successful, oppure viceversa la puoi giocare diversamente sperando che il runner si schianti sopra qualche mefalittica trappola o mestizia che gli hai messo giù. Perché? Perché il potere retroattivo, appunto, dell'abilità è quello lì di forzarlo, come si diceva, a fare le run. Apre due tipologie di mazzo simili ma diverse, una che punta a scorare e una che punta a scorare meno bene, perché punta ad un altro tipo di vittoria, cioè include un altro tipo di vittoria. Senz'altro è una bella identità, già per me è un 4 pienissimo. Concordo, 5 rimane concordo. Engineering Diffusor, purtroppo, quindi vabbè, sì. No, io anche un bel 5 glielo do, proprio in virtù di quello che diceva Riccardo, cioè che apre una tipologia che prima era un po' soffocata, o comunque, diciamo, sotto una sottocategoria, diciamo, meno vincente. Prima di passare alle carte vere e proprie, adesso abbiamo guardato solamente le identità, stoppiamo un attimo per la pubblicità e ci vediamo tra poco. Questa puntata è sponsorizzata dal Circolo Evolution. Vienici a trovare in via San Felice 107 a Bologna, aperto tutti i giorni dalle 7 in poi, se gioca a palla de fuoco. Ok, ripartiamo dopo la pubblicità con House of Knives, la casa dei coltellazzi. Allora, questa è un'agenda, sempre Jinteki. Allora, finché non vi dico che è un'agenda di qualcun altro, oppure che è una carta diversa da Jinteki, voi considerate che è sempre Jinteki. House of Knives costa 3 da avanzare, vi porta a casa solamente un puntarello agenda, però, insomma, c'ha una simpatica abilità. Metti 3 agenda counters su di essa e ogni volta che spendi un agenda counter fa un net damage. Puoi utilizzare però questa abilità solamente durante una run e solamente una volta per run. Hai detto Kotika, non mica poco. È un gioiellino, un'altra carta che è un gioiellino. Fondamentalmente è un brain damage. Una volta la scorri hai un brain damage a tavola. Perché dici un brain damage? Ovviamente, però è perché è un danno durante le run, chiaramente, non quando ti pare a te. Però fondamentalmente il run era una carta in meno in mano quando inizia una run. Sì. E andrà facilmente a sostituire le varie 3-1 riempitive, certo. nel classico mazzo full agendine, invece, sì. Oltre ai profitering, invece di metterci quella neutrale che toglie bad publicity o queste cose, ci metti loro, per direttissimo. No, no, ma questo ottimo. Diventa veramente quella da temere tra le 3-1, sicuramente. Io mi immagino anche solamente cosa succede se ne scori 2 o ne scori anche 3, cioè fuori di testa. Cioè ti faccio 3 danni ogni run che fai, vedi un po' tu. Viene solo il dubbio. Sì, è solo per carta, use disability, perché sono carte diverse, sì. Se ce ne hai 3 puoi fare 3 danni. Sì, anche perché poi rivedendo con le regole base rispecificato anche da Lucas, eccetera, eccetera. Comunque ogni carta parla per se stessa a meno che non lo specifichi. Quindi sì, vale. In triplice copia vale. Quindi è terrificante le prospettive. Spero non succeda mai, però è possibile. Due a terra è molto probabile. Sì, ma pensa anche solamente al Tenin Institute che abbiamo visto prima. Nel Never Advance, queste qui le porti a casa facilmente. Soprattutto quanti segnalini metti con 2 di queste a terra. Cioè il runner prima che fa una successful run dentro il tenin con 2 di queste a terra si alimenta anche, insomma, la combo. Vabbè, io gli do un buon 4, se non anche 5. Per me questo qui proprio non ha difetti. Non gli do 5, 2, però gli do 4 sicuro. Concordo. Sì, vabbè, sì, certo, sì. Voto alto, poco da dire. Va bene, passiamo oltre. Medical Breakthrough. Allora, Medical Breakthrough costa 4 da avanzare, un'agenda, ci dà 2 punti agenda e abbassa, cioè il costo di avanzamento di questa agenda è abbassato di 1 per ogni Medical Breakthrough che è stato scorato da ognuno dei giocatori. Quindi, insomma, per ogni breakthrough che è stato già preso o dal runner o dal... Ah no, scusate. Sì. Stavo pensando che fosse... Per ogni medical che è uscito praticamente. Sul tavolo, diciamo. Sì. Ogni medical già a tavola, questa qui diventa una 3-2 e poi diventa una 2-2 che è veramente insopportabile. Cioè la metti e la avanzi nello stesso turno, ti dà senza dover far trick di nessuna sorta e ti dà 2 punti agenda, veramente fuori di testa. E sì, questa è la 3-2 del Jinteki, cioè insomma è la seconda 3-2 del Jinteki. E questa è la cosa che purtroppo, come ben sai, io speravo che smettessero di stampare le 3-2, perché è stato un errore quando le hanno stampate, almeno il secondo set di 3-2. Fossero qui l'hanno tutte messo così, un minimo non sarebbe stato male, via, dai. Eh? Se fossero state tutte così non sarebbe state male. Cioè, se le sarebbero state un po' meno peggio. Esatto, insomma, dai. Io così non mi dispiace. In quell'altra maniera, insomma, 3-2, assolutamente sì. Beh, però questa è un auto include se si decide di fare il famoso fast advance con Harmony Med Tech, perché che esca o che non esca, come vedremo, ce la si può tutorare. Quindi vuol dire che i 6 punti, una volta che ne hai scorato, che qualcuno, diciamo, ne ha scorato una, preferibilmente tu, ecco, sono già praticamente fatti. Perché con un Trick of Flight ti porti a casa la versione 3-2 e poi dalla mano, tutorando tra il turno dopo, ti porti a casa la versione 2-2. Quindi sono già 4 di 6 che tu puoi farti tranquillamente e senza particolari problemi, senza aspettarla, senza dover lasciare le pescate. Insomma, dite sì. Cazzi. Sì, diciamo che il discorso è questo. Innanzitutto, appena ce ne sono 2 sul campo, questa carta grida top deck. Ed è più o meno una cosa molto brutta di solito, però è vero. Cioè, di solito anche uno stealth takeover molte volte grida top deck. Questa è peggio perché dà 2 punti. Quindi, insomma, e dall'altra è interessante sicuramente. La domanda è poi appunto come impostare il mazzo, perché Jinteki adesso di 4-2 neanche di interessanti, c'è ancora in giro anche NIPD Contact, ovviamente, che per me è una carta fortissima. Sì. E tra l'altro ogni volta che la pesco dal mazzo dell'avversario non so che faccia fare, perché non puoi dire niente peraltro, quindi comunque no, è una bella carta. Quando il mio avversario starà a 5 punti o a 4 se c'è quell'altra identità e la pesca senza niente, senza tutori, io gli lancio il tavolo contro, però a parte quello va tutto bene. Saranno tante carte che in arrivo così, quindi il gioco sta cambiando e ci si adegua da sto punto di vista. Ok, quindi siamo tutti d'accordo. Passiamo a quella dopo, che se no qui le persone che vanno a correre mentre ascoltano Netrunner ce l'abbiamo sulla coscienza, che devono venire, sì, che pur di finire la puntata devono correre tutto il tempo e poi ci muoiono mentre ascoltano Netrunner. Va bene, allora passiamo a manco lo dico, guarda, Philotic Entanglement. È un'agenda, se avanza con 3 e ci dà ben 2 punti. Ha un'altra 3-2, un'altra 3-2. No, non è vero, ne puoi mettere al massimo una per ogni mazzo, quindi anche qui si sono limitati. Ma quando la scori, fai un net damage per ogni agenda che è nella score area del runner. Quindi, però, questa chiama mazzo agendine, cioè questa è la carta. Se la scori con il mazzo agendine hai vinto. Esatto. E questa è come dovevano essere le 3-2, cioè limitate a una. Sì. E quindi questo già mi piace. E l'abilità è un'ottima abilità, chiaramente nel mazzo giusto. In un mazzo fast advance la metti perché è un 3-2 e testo bianco. Nel mazzo agendine la metti perché questa qui potenzialmente, se con qualche trucco te la porti inaspettata, o piuttosto la metti sul tavolo nel momento giusto e la riesci a portare a casa, mandi a casa il runner direttamente. È un'ottima carta, insomma. Ogni 3-2 poi è sgravata sto gioco, quindi va benissimo. Confermate? Avete, sì, qualcosa da dire, dai, insomma. Diciamo che Deus Ex non è mai sembrata una carta così bella come in questo periodo, secondo me, e inizio a rivalutare anche altre carte. Net Shield, ma c'è anche l'altra di quella che feedback, costa di più. No, sì, adesso mi viene il nome, mi stai vedendo Feedback Filter, ma di Creation and Control, adesso non mi ricordo. Esatto, c'è anche Buggy 3. Esatto. Cioè, diciamo che la forza di Philotic Entanglement è che secondo me non è anche in un mazzo che comunque gioca fast advance in generale, non è proprio un testo blank, perché comunque se non te l'aspetti e ti sei fatto male i conti, anche perdere le carte che hai in mano in quel momento può essere, cioè magari non è un flatline, è tempo. Battute, sì, però sì, è tempo, perché anche che mi toglie due carte e poi addirittura se dovesse passare l'identità del Kronos, anche questa inizia a essere bruttarella comunque, perché anche basta un dannetto, sì, sì, è sempre forte, sì, sì. Quindi per fortuna è un au-pair. Per fortuna è un au-pair, non ci voglio manco pensare. Sì. Non c'è veramente ragione per non metterla, cioè, anche perché sappiamo che se esistessero le 3-2 bianche neutrali le giocheremmo tutti. Esatto. Quindi sì, cioè, se si è giocata Brain Trust, che è più scarsa, quindi perché non mettere questa? Cioè, per me è un 4 gonfissimo. Anche 5 secco, secondo me. Cioè, sarebbe stato 6 se fosse stata in triplice copia, ma finiva il gioco. Finalmente una 5-3 per Jinteki. The Future Perfect. Un'agenda, costa 5 ad avanzare, ti dà 3 punti. È una tipologia psi, quindi ci aspettiamo già che succeda qualcosa di psicotico all'interno. Questa ve la leggo in inglese, poi dopo ve la spiego. When the runner access the Future Perfect, fai il gioco psi, cioè del 0, 1 o 2 soldi. E se si è speso un if you and the run spend different number of credits, prevent the future perfect from being stolen. Ignora questa abilità se hai acceduto a future perfect mentre era installata. Quindi questa abilità si attiva solamente se te la pescano dalla mano, dagli archivi o da R&D. E cos'è? Quando è il momento di rubarla, prima di rubarla devi vincere lo psi. devi vincere il giochino dello esatto. Sì. Quindi fondamentalmente autopreviene il furto 2 volte su 3. Poi la teoria è sempre diversa dalla pratica. A me questa fa impazzire, sempre perché io penso al Tanning Institute. Se dobbiamo buildare delle agende per fast advanzare comodi, ci mettiamo 3 delle medical breakthrough, che poi ci tutoriamo. Ci mettiamo 3 di queste, che sono difficilmente... Perché? Perché noi alla fine possiamo vincere semplicemente col medical breakthrough e potremmo tutorarcelo. Questa è un'agenda che ci occupa pochi slot, ci filla il numero di punti agende, ed è più difficile da prendere di Napt. Sì. In questa meccanica è semplicemente perfetta. E quindi Riccardo la odia. No, secondo me queste io vorrei che fossero solo 5-3 le agende, che i runner avessero meno soldi e ci fossero le agende 5-3, perché il gioco del il cyberpunk è fare le run, schiantarsi contro gli ice e il fast advance lo nega, quindi io sono un grande fan delle 5-3. È una 5-3 che contrasta la sfiga, cioè il fatto che il runner clear hand e ti top deck l'agenda da 3 punti. Bravo. È un'ottima carta, secondo me, va benissimo. Quanto si giocherà? Questo dipende se ci sarà una rinascita delle 5-3. Ragazzi, io tuttora adesso vedo molto. Dico solo una cosa, qui la dico e qui la nego, perché prima lo voglio provare il mazzo. Ma un bel Jinteki Punitive Counter Strike con 3 di queste qua e 3 altre 5-3 tipo. Beh, però... questa non ha senso, perché se non te la scora il Punitive ti rimane in mano. E però la puoi calare a terra, però... e lì vale da terra. Se uno sta facendo il ragionamento, intanto non me la ruba e poi voglio esatto. Che me la rubi. Bravo, esatto, esattamente. Sì, sì, sì, no, io ho capito il ragionamento. No, e ti voglio dire, dei mazzi Jinteki Punitive Counter-Strike si sono visti in giro e giravano con Executive Retreat e Priority Rack Requisition, sì. Insomma. Sì. E diciamo che sono d'accordo con Riccardo sul discorso che il dramma di quando si è giocato solo set base, ne ho fatti anche tanti di questi tornei, quando è stato lanciato il gioco in Italia finalmente, è che il top deck di una 5-3 di solito porta improperi assortiti verso chi volete voi, certo. Perché a 4 punti la partita è in bilico fondamentalmente, certo. Qui col solito gioco dei 3 crediti, come lo chiamo io, tutto sommato ci se la può rischiare, almeno mitiga la sfiga, vale anche in mano, che non è cosa poco, vale dagli archivi, che non è nemmeno una cosa esatto. Da buttare, a dirla tutta, perché qualche volta a me continua no, è proprio una cosa da buttare, nel senso che sì, sì, no, voglio archivi, dire, cioè... e se poi non so quante nel gioco, cioè a me l'archetipo Punitive Counter-Strike piace, ma mette sempre un po' paura, perché se dice male all'inizio la partita è molto molto molto tesa. Vabbè, fai i soldi, ragazzi, sì, e poi questo sì, è sì, sindrome sì. Mid-season, questo è sindrome, lo so, mid-season, però... le agende non le puoi regalare, non le puoi regalare le agende, perché ci sono ancora momenti di torneo in cui si fa la differenza di punti, sì, agenda, sì, è vero. C'è il nuovo tipo, la nuova tipologia di torneo che invece mi piace molto, dove fai la double elimination, quando esci una volta poi dopo devi giocare per forza con l'altra tipologia, cioè esci una volta, giochi l'avete letta? No, sì, sì, sì, no, sì, io sì, ancora no, io l'ho letta, sì sì sì, però prego, cioè, ma spieghiamo a chi da casa non conosce la sì, no, la double elimination semplicemente durante le eliminazioni dirette, tu prima di andare fuori fai due incontri, non match, quindi fai il primo match con una persona e fai magari giochi la corp contro un runner, se ti va male quell'incontro lì, il secondo match lo fai contro un'altra persona, il secondo incontro, quindi la seconda partita la fai contro un'altra persona e giochi runner, quindi hai giocato sempre sia runner che corp contro due persone differenti, e lì ti puoi permettere, quindi se nella prima sei stato, come dire, sconfitto, ti sei beccata la prima elimination, se vieni eliminato anche nella seconda, cioè se vieni sconfitto anche nella seconda, ti becchi la seconda elimination e sei effettivamente fuori dal dalla finale, insomma, dalle finali. E l'ho raccontata bene, cioè, sì, sì, e soprattutto l'altra cosa interessante da dire, già che ci siamo, la durata del match singolo è da 35 minuti, certo. E in questa maniera, appunto, non c'è, diciamo, il brutto del formato. Io sono capitato anche nei tornei a Roma sempre a dover giocare poi nella top, quindi con le regole diverse, non facevamo mai Svizzera pura. E ovviamente mi sono reso conto la prima volta e la seconda poi l'ho capito, che il grosso problema è sempre che a seconda di come è andata la prima partita, la seconda partita può anche finire, fai un punto e chiudi la partita. Sì, sì. Che è una cosa molto brutta, perché sì, sì, oggettivamente di primo turno hai pescato uno start e cover locali, ciao, okay, e chiudiamo, quindi, eccetera eccetera. Adesso te la giochi anche con un mazzo che magari perde agende, però poi ti chiude la partita. Cioè mid season, okay, è giocabile da questo punto di vista, mettiamola quindi così. Hanno tolto la differenza agende, questo è, esatto, ottimo. Esatto, è ottimo. Perfetto. Però vale solo da un tot di giocatori in su. Sì, sì, sì. Altrimenti okay, è Svizzera pura, quindi comunque rimane come io, prima. Infatti, io in realtà, adesso poi qui stiamo divagando, so, tanto ormai, cioè, è andata così. Un po' avanti. E io personalmente sono, se fossi il tournament organizer del mondo di Netrunner, direi, ragazzi, i tornei di Netrunner si fanno con un turno di Svizzera in più, ma si fa solo la Svizzera e alla fine c'è il coso. Perché secondo me è un gioco da solo Svizzera. Cioè non, io capisco l'emozione del, come dire, della finale delle finali, che dici, ah cacchio, questo, però no, è unfair, cioè no, è ingiusto. Sono d'accordo anche io, tutto sommato. Si presta meno perché non c'è, come in altri giochi, la terza partita. Esatto. E quindi sì, quello è il problema, sono d'accordo. E le partite sono lunghe, soprattutto. La fai come a media, scacchi, quindi fai tre match ogni incontro, quindi io gioco, cioè facciamo tre match, cioè sei partite nel runner complessive. Esatto. Che lì te la gioco, però insomma, e poi ci facciamo ricoverare. Esatto. Hai due vantaggi grossi, poi uno, giocano tutti, mentre la top chiaramente non la giocano. Bravo, tutti. Esatto. E secondo, poi fondamentalmente qualsiasi forma di torneo a classifica, quindi sia essa Svizzera sia Elo based, tu in ogni caso più partite giochi più convergi ai valori reali. Sì, sì. Per definizione, quindi è una classifica più giusta, se vuoi. La sfiga si annulla sul lungo termine. È vero. E soprattutto le ultime partite, anche dei giocatori che in quella giornata sono stati più sfigati, con tutto il sistema, contano ancora tanto, certo, poi, certo, quindi certo. Non, fino all'ultimo, cioè tranne alcuni casi estremi, non lo sai come invece va a finire. Invece di fare la suspense della finale, fai la suspense del ranking finale, cioè dici, ok, l'ultimo è, fai quella cosa lì che magari può dare un po' meno di suspense, però secondo me è molto più fair, la gente se la vivrebbe molto più tranquilla. Comunque, insomma, ci piace a tutti quanti, sì, il Future Perfect. A me sì, sì, piace, sì, ripeto, sì, alla, sì, meccanica sì, brutta, alla meccanica sì che è brutta, però l'idea di fondo è molto carina. Secondo me è una delle migliori 5-3, siamo a quelle Wildland, una delle più giocabili, okay, a parte quelle neutrali, diciamo. Usciamo dal territorio delle agende per entrare in un territorio a metà fra le agende e gli asset, cioè Chairman Hyrule. Perché a metà? Perché è un asset che costa 2 da rezzare, ma 6 da trasciare, lo ripeto, 6 da trasciare, 5 di influenza, quindi lo vedremo giocato, spero, comunque penso, solamente in Jinteki. Abbassa la mano massima del runner di 2, quindi il runner si ritrova a poter avere solamente 3 carte in mano alla fine del suo turno, ma se viene trasciato, tranne che dagli archivi dove non può essere tracciato, quindi se viene tracciato da qualsiasi punto, conta come 2 punti agenda. Che ne dite? Diciamo, ma secondo me è una buona casa, non so se senza senso, nel senso cattivo, sì, nel, sì, senso positivo, nel senso cattivo e positivo, cioè fare, okay, 2 brand damage a costo 2 è senza senso, cioè. Ah, un positivamente. Prima di giudicarla vi vorrei chiedere le tempistiche di questa carta, cioè noi siamo abituati a fare il rezzing di per esempio Path Campaign dicendo prima che passi, che è la tipica espressione di Magic, no? Prima che passi rezzo Path Campaign e poi mi spendo 2 e prendo un soldino perché arriva la mia fase. Questa quando è l'ultimo momento utile in cui tu la puoi giocare? Abbiamo perso qualcuno la discard phase del runner, cioè in fase di discard phase tu dici rezzo questa e ha effetto subito, ma certo. ho una finestra di rezzing Effettivamente. Ma suppongo di sì, calcolando che gli asset possono essere rezzati praticamente in qualsiasi momento, infra-click, in qualsiasi momento che non sia... No, praticamente in qualsiasi momento alla fine. Io direi alla fine di un del quarto click ti dico, sì, guarda, sì, alla fine del tuo quarto click rezzo questa. E quindi tu entri subito in discard face, ci siamo. Penso sì, possa, anche secondo me, anche se sicuramente sarà oggetto di FAQ automatica, perché sì, ma comunque c'è il problema è margine, cioè il problema può essere il vantaggio di rezzarlo così senz'altro è determinato dall'effetto sorpresa subito, ma dubito che un runner abbia sempre di 5 carte, tutte e 5 assolutamente giocabili, a meno che non abbia fatto un turno di pesca per assestarsi. Insomma, il punto fondamentale è che ti porta a 3 land side al netto di qualsiasi brain damage, facendo in modo che uno, il gioco del runner rallenti in una maniera incredibile, perché ovviamente dovrà fare molto più pescaggio per poter vedere ciò che deve vedere. Secondo luogo, avrà molta più paura di qualsiasi carta rossa, perché quelle che prima erano noiose ora sono letali. E in terzo luogo, regà, quasi scorcia, cioè, ma anche Ronin inizia a diventare pauroso qui dentro. Non è paurosissimo suo, però Ronin, cioè, girare questo con un House of Knife scorata è un problema, perché vorrà dire che 2 click del runner dovranno essere necessariamente volti a pescare per runnare 5 carte, poi runnare sapendo di perderne una, dopodiché avrà un click oggettivo per fare economia o giocare carte, cioè si pianta proprio, gioca con un click e mezzo praticamente. Niente male. E in più, con molte carte in meno, deve generare 6 crediti, deve passare in mezzo alle trappole di Sole Enigmista per provare ad arrivare in fondo con ancora 6 crediti per dare un calcio nelle palle a sto Chairman Hero, e magari gli giri una Capris Nisei che dice aspetta, qui sta dietro la porta, vediamo se ti faccio entrare o no. Cioè, è tanta roba questa. Secondo me è splashabilissima anche in un Wayland che vuole soltanto tag and baggare, perché guadagni tempo, morbi l'economia, morbi i click e in più muore col carapace. Cioè... Sì, dopo scorso ti uccide. Muori. Cos'era col carapace. Successo? In che senso? Io sono stato disconnesso, quindi non so dove siete arrivati. Ah, stiamo ancora parlando di Hero, comunque, siamo ancora al nostro chairman. Pardon. No, tranquillo, poi a me è saltata la conversazione per un attimo. Ah, ok, quindi... a me mi ha ricollegato. In confronto alla size up di HB, questo ha una giocabilità estremamente più alta. Anche perché, diciamo, è propedeutico alla protezione di se stesso. Perché abbassando lane size, avendo Jinteki quei ice lì con 2 ice a protezione, è molto più problematico che contro un HB che bene o male dice vabbè, ranno. Alla fine i miei click ce li ho avuti, morire è difficile che muoio, e se proprio va fatta male mi rezzerà un bioroide che con 2 click passo. Qua per passare ti devi beccare, magari se non riesci a breccare, dei net damage, si protegge da solo questo, più dell'altro, ecco. Troverà spazio nei mazzi secondo voi? Beh, quelli che si basano secondo me sul net damage, sì, quelli che splashano un po' di verde per tirare due tigne pure, cioè oggettivamente non ha un drawback sufficientemente pauroso per la corp, sto parlando infection, per non metterlo se non carte preferibili alla meccanica del mazzo che stai creando. Se stai creando un mazzo che non cioè per esempio nel fast advance di Tannin non ce lo metti, siamo d'accordo, chiaramente. Ma nel Never Advance nemmeno, che dite? No, come io no? Lo metterei nella core, no, io lo non lo metti nel Never Advance? No, Never se Advance giochi è un core, server, solamente se giochi core set, cioè core identity, io lo giocherei qui. Personal Evolution dici, no? Mm-hmm. Sì, no, è interessante. Allora, il fatto dei 2 punti agenda quando viene trashato è sempre pericoloso, è un 6, quindi voglio dire, da questo punto di vista, anche se poi se diventasse più popolare, carte anche come, vabbè, Spy Imp si vede in giro, Demolition Run è pericolosa, però si gioca un pochettino di meno, anche se adesso, poi ne parleremo più e più avanti, inizia a essere possibile tutorare pure Demolition Run, quindi avrei paura lo stesso. È una bella carta, ti porta a 3 salvo modificatori, perché adesso potrebbe anche diventare interessanti da questo punto di vista le carte che fanno avere più carte in mano. È buona, però non splasharla fuori con 5 punti influenza cioè questa carta vorrebbe essere Jack Wayland fondamentalmente da questo punto di vista, però non avrebbe senso, però sì, nel senso, con 5 dentro un Wayland, diciamo pure con l'identità base, ti restano 10 punti, ne metti una sola, sì, può essere interessante come carta sorpresa, però son tanti, insomma, la vedo bella ma non facile da giocare, tutto qui secondo me. Io posso portarvi una statistica, ho giocato parecchio Jinteki Net Damage e tutte e le uniche partite che il Jinteki Net Damage si porta a casa è quando quando riesce a buttare in faccia un Edge of Ward, sì, o comunque sì, a buttare Brain Damage. Questi sono due Brain Damage, esatto, per un turno che sì, devi proteggere, ma sono due Brain Damage. Questo pure è vero. Questo con due crediti. Ragazzi, vi lascio un secondo, vi mando avanti, siamo arrivati a Mental Health Clinic, c'ho un attimo la bimba che richiede la mia presenza, ma tanto siete in 3 e ve la giocate tranquilli. Va bene, va bene. Allora, fai okay, tu il moderatore, così. Allora, vabbè, Mental Health Clinic, un asset, nuovo, costo 0 di Reds, 3 di Trash. Guadagni un credito quando il tuo turno inizia, però la dimensione massima delle carte in mano al massimo che il runner può avere è aumentata di 1. Quindi direi che andate voi per primi, allora, visto che faccio il moderatore io. Va bene, ok. No, è forte, niente da dire, perché è una, diciamo, è una pat campaign dentro Jinteki, per certe cose è molto più forte. Allora, è vero che ovvio in un mazzo che vuole uccidere di net potrebbe iniziare ad avere molto meno senso, anche se togliergli improvvisamente una carta potrebbe essere simpatico, ma è un altro discorso. In generale, il pat campaign costa 2 e 4 di trash per rezzarla, questa costa 0 e 3 di trash, e tra l'altro quando comunque il runner decide di spaccarla perde comunque qualcosa alla fine, è possibile che perda qualcosa, influenza 2, quindi non so se ci si debba splashare da qualche altra parte, ma è molto carina. Per me è un sì grosso, mi piace. Francesco? Per me dipende da quello che ci si vuole fare, nel senso che dare un più un insides può diventare anche un grosso problema per quanto riguarda la stessa meccanica Jinteki, in cui l'unico spesso un modo per formare le run, sto parlando sempre in faction al netto dell'influenza, sempre per il prima, che fermare le run vuol dire fare paura con un più uno in size, sei più tranquillo. Bisogna vedere in che modo impieghi quel denaro lì, è un motore economico notevolissimo, se lo appai con Sandiuv cominci a cacà crediti che pari remida, non è poco, e decisamente no, non è una carta brutta, però io non lo so, purtroppo al momento c'è un'economia talmente burst, talmente basata sulle operation, che questo genere di carte che ti danno soldino per turno, cioè, non trovano poi tanto spazio per com'è il gioco adesso. Però è una carta brutta, è semplicemente una valutazione a meta questa. Io guarda, ti dirò invece, io ogni volta che gioco un HB basato sugli asset, le cose vanno molto bene, perché è vero che devi aspettare i turni per avere soldi, ma è altrettanto vero che il runner li perde, quindi alla fine l'obiettivo, la cosa importante del gioco è il delta di crediti più che il livello di crediti che hai, cioè devi avere pochi crediti meno o più crediti del runner, quello è il tuo obiettivo alla fine. Questa secondo me è un'ottima carta, chiaramente assolutamente non fuori fazione, perché se devo andare a spendere due influenze per questa metto la pass campaign, secondo me assolutamente, però sinceramente in un Replicate Imperfection che non mira a che non miri i flatline, l'unica condizione di vittoria non sia il flatline, mettere 3 di queste e 3 Sandiu secondo me è un'economia dignitosissima. Sì, senza contare il fatto che questa la puoi trashare abbastanza facilmente, quindi anche se vuoi fare danno puoi utilizzarla in early per fare soldi, e poi quando decidi di arrivare al punto in cui vuoi ammazzare il runner cominci a trashare. tanto ripeto, la realtà dei fatti purtroppo è che il runner con un Jinteki non lo ammazzi finché non gli fai blind damage, quindi te la puoi tenere finché non gli piazzi un Edge of Ward piuttosto che un Cerebral Overwriter o quello che è. Quindi Riccardo, la carta. Sì, poi scommetto che ne parleremo dopo, ma c'è una nuova signorina Jinteki che è arrivata a qualche carta di cui parliamo, mi sa che ti piace abbastanza adesso. Poi ne parliamo. Comunque secondo me è un'ottima carta, un 3 è un 3, concordo, un 3 decisamente. A che punto perché siete? Ha la concorrenza di Pad Campaign, se no sarebbe un 4. Sì, sì. Ok, a che punto siete, scusate? Siamo abbiamo votato. Sì, Mental Clean. Ok, sì, sì, mi piace moltissimo, dico solamente questo, penso che in qualsiasi mazzo che non tenda al flatline in Jinteki verrà giocata abbondantemente. Comunque, Psychic Field costa 0, è un asset ambush e anche psi, quindi ci aspettiamo già che succeda qualcosa di psicotico. Quindi cosa dice? Se il runner exposes, quindi come si dice in Italia? Come l'hanno tradotto? Espone. Espone? Espone. Ah, penso sì. Va bene, espone o accede a Psychic Field quando è installato, fate il gioco dello psi. E se il runner ha speso un numero differente di crediti, fa un net damage per ogni carta nella mano del runner. Quindi fondamentalmente gli scava tutta la mano. Domanda. Quella che fa i danni durante una run si può applicare in questo caso? Certo, no, lei lo fai prima. No, la run. La domanda, ancora la domanda è: la run è in corso finché lui. Sì, sì, sì, certo. Cioè, è during a run quella, no? Sì, era? Esatto. Sì, sì, sì, sì, la run non ha termine finché non si è deciso di trasciare o declinare le carte a cui si è avuto accesso. Dimostrazione: Dirty Lamp, che ti dai soldi solo dopo, sì. Alla end of, during a run. Of the run. Quindi si può fare benissimo per fargli il dannettino in più. La cosa straordinaria, ragazzi, è che questo c'ha uno di influenza. Cioè, rischiare di spendere un'influenza dispari che ti avanza di una corp per completamente far perdere un turno risorse e robe, cioè rischiare di far perdere un turno risorse a runner, secondo me è totally worth it. Non è affatto male, non è la carta di Dio, perché purtroppo le trappole sono di una difficoltà insensata. Beh, da no, giocare in questo gioco anche se la esponi, sì sì sì. Ti sto dicendo, stavo facendo un'analisi sull'esportazione, sì. Ok, cioè il discorso delle trappole non è tanto relativo al discorso dell'accesso o dell'esporre, è relativo al discorso del cascarci, perché comunque sì, sì. Questa qui la deve mettere giù, cioè la devi mettere giù perché abbia effetto, e ha il vantaggio che se te la espongono trigger ugualmente, che è una gran cosa. E appunto per questo dico, per un'influenza, se c'è l'influenza dispari in un altro mazzo qualsiasi, se può pensare di buttarla, se proprio non ci vuoi mettere il solito Jackson Howard. Non è esatto. Affatto male, è un wipe che se è completamente fuori dalle meccaniche del mazzo nel quale non danneggi in maniera diversa, stica, lui si perde un turno a ripescarsi la mano, niente male. Sì. È una carta anche molto forte contro gli expose, che secondo me tra un po' si inizieranno a giocare, perché si inizieranno a giocare sia se Silhouette insomma e la sua console prendono piede, sia se il Jinteki comincia a essere giocato, perché sì. Giocare senza expose contro un Jinteki, io lo so, è il tallone d'Achille del mio mazzo, quindi lo so benissimo che dovrò iniziare a inserirli gli expose. Quindi penso che sia l'unico asset, tra l'altro, che anche quando è esposo, quando viene, sì, esposo, quando gli viene fatto un expose trigger come trappola. Forse anche però non è una trappola, ma Zaibatsu Loyalty mi sa che si attiva sì. Pure lei su expose. No. Cioè lo puoi expose, sì, ok. Sì, esatto, praticamente okay, Zaibatsu vero, cerca di evitare quelle appunto quelle difficili finestre di operazione, dicendo semplicemente quando il runner sta per esporre qualcosa puoi rezzare Zaibatsu, quindi anche se non avresti nessuna forma di finestra per poterlo fare, te lo fa fare proprio la carta scritta. Però sì, effettivamente sì, è l'unico che si attiva iniziativa così. Quindi dai, insomma, non mi sento nemmeno di dargli un voto, direi condizionale, dai, uno di quelli non Guarda, applicabili. Sì, sono d'accordo. È un'ottima carta, perché in un Never Advance questa carta è carissima, anche se lo vuoi giocare anche se lo vuoi giocare NBN, è una carta che sta lì. Non so, le trappole ti servono nel Never Advance. Sì, ci metti i tuoi Edge of World, ci metti questa. Comunque il tuo scopo è far spendere soldi al runner, quindi anche se poi arriva e ti dice sfiga, ci spendi zero, lui spende zero e quindi non si attiva la trappola. Sono due crediti che gli servono per trasciarla e sono tutti i crediti che ha speso per arrivare nel tuo server. Quindi buona carta, perché ha un'influenza. Secondo me la cosa che sta diventando sempre più interessante, più aumenta il parco carte a disposizione, è che tu in realtà potresti mettere estremo un 1 per di trappole diverse nel mazzo. Certo. Piano piano, e quindi cosa potrebbe essere? Può essere diventare, poi questo non è il caso, però puoi avere un Jumbug, può esserci Edge of World, può esserci questa, può esserci Snare, può esserci Shock, e quindi piano piano si complica sempre di più il discorso, e per me questo rende il gioco sempre più interessante da questo punto di vista, che non sai cosa ti troverai davanti. Soprattutto col Tenin esatto. Institute, che puoi avanzare quello che ti pare senza dover rispettare le regole del gioco, diciamo. Sì, sì, sì, sì. E va bene, passiamo allora a quella dopo, che è Shikyu. Shikyu è un asset ambush, costa 0 da rezzare e 0 da trasciare, come la vecchia tradizione degli ambush. Quando il runner accede a Shikyu puoi pagare X crediti. Il runner deve o prendersi X net damage oppure aggiungere Shikyu alla propria area di scoring, e questo Shikyu vale come un'agenda che ti toglie un punto agenda, quindi che vale meno uno agenda point. Ignora questa abilità se il runner accede a Shikyu da R&D. Secondo me quest'ultima frase l'hanno messa a seguito di playtest, cioè hanno visto che se mettevi Shikyu valeva ovunque. Valeva ovunque, era troppo sgrava. Allora hanno messo sta toppina, sta pecetta finale, ignora questa abilità dall'R&D. 4 di influenza, quindi insomma molto gintecosa. Una carta stupenda che fondamentalmente significa quando il runner accede si becca meno un punto agenda. Punto. Sì, fa questo, però costa, che è una cosa fortissima. Però costa più di 5 soldi fargli fare questa mano. 4, 5. Dipende quante carte hai in mano. Se hai le dovute. Se hai i dovuti potenziali ulteriori attacchi, puoi anche spendere qualcosa meno. Però, sempre che il tuo interesse soldi, non sia fargli perdere quel numero di carte in mano, che lui non può sapere. Certo. C'è anche. Sì, secondo me, nota di flavor a parte che è sempre divertente, è uscita la spiegazione del nome, Shikyu, che non solo vuol dire praticamente 49, se ricordo bene, praticamente vuol dire fondamentalmente morte o tortura. Ah, però. Le due porte, quello ci sta, una è quella e una è l'altra. E allora, secondo me, ringrazio che abbia 4 di influenza, perché questa è una carta che altre fazioni vorrebbero tutta la vita. Wayland pure, per dire, volentierissimo, ma anche altre. Il discorso è questo: nel 99,9% dei casi, salvo mind game più complicati, perché se te la faccio da 2, magari io li prendo, dipende a che punto stiamo della partita, ma se stiamo sul 6 pari o sul 5, io sto a 5 e tu stai a 4 e ti riporto a 3, e la cosa terrificante con l'arrivo anche di nuovi ice di questa espansione, poi vediamo dopo, il fatto è che insieme a Shock c'è adesso una run successful sugli archivi, è molto molto più pericolosa. Esatto. Perché questa vale ogni volta e non la puoi eliminare, quindi a un certo punto la prima volta che entri su un archivio coperto dove non sai niente, rischi di perdere anche 3 punti agenda, se in un'ipotesi estrema, però è possibile. E fa molta, e se la peschi dalla mano fa male, se la peschi a terra fa male. Ecco, questa è una delle carte di cui parlavo prima, nell'ipotesi della strategia di Harmony Metac a 6 punti. Questa è molto interessante all'interno, secondo me. Ragazzi, questa è una carta molto interessante per motivo. Finalmente si potrà giocare frame job con profitto. cioè... anche dal momento deal, che anche data deal, volendo vabbè alcuni lo dicono, hanno iniziato a dire con gli anziani, parleremo dopo. Sono 9 soldi, io insomma mi metto una carta che funziona sotto, solo contro un Jintaki che gioca questa carta. Internet è bello perché c'è espressione per tutti, ragazzi. Esatto. Sì, sì. Non mi dilungo, molto forte, deve essere supportata però da un'economia veramente drammatica per poterla farla triggerare tante volte e mantenere l'effetto offensivo. Però per me è un 4 senz'altro, la migliore trappola per ora. Due crediti, due carte, un menu, un'agenda, secondo me comunque non è tutto questo pesante di economia, secondo me ci sta. Dove, sì, dipende dove sei, in che punto della partita, secondo esatto. me. Quello il discorso. Runner è questo, cioè molto lo so, cioè, e soprattutto, dicevo, quando accedi a una è un conto, ma quando accedi a due di queste... Sì, diventa inizia a essere pesante. Due punti agenda in meno è grosso, Cioè, ci vinci una partita questa cosa. Sì. Una bella carta, indubbiamente. Let's go on. Ok, Tema Line. Allora, è un asset tipologia clone. Costa 2 da rezzare, 4 da tresciare, 3 di influenza. Click. Scambia 2 pezzi di ice che sono installati. Quindi, attenzione, non dice scambia 2 pezzi di ice nello stesso server. Quindi, anche. Insomma, fra server diversi diventa interessante. Io personalmente non la giocherei, ma nemmeno se mi sparassero. Però insomma, ci può stare, fa flavor. Che ne dite? Ci sono, purtroppo non si può. Non esistono mazzi ancora che riescano ad avere delle pile di ice posizionali così alte da permettersi di giocare cose di questo tipo. Sì. E il motivo è semplice: economia, tempo, perché i click sono 3 per turno, e il fatto che comunque questa carta possa essere trashata, quindi neanche te la butti su un server esterno. Non lo so, se devo giocare una cosa del genere, scambiare ice, uso Sunset, sinceramente, perché è un'operazione. Chi gioca Sunset? Nessuno. Va bene, uno e passiamo oltre. Questa è la classica carta che da ragazzino avrei detto è la cosa più bella del mondo, come tante di Magic. Sì, come idea, ma dove la metterò mai? Sì. Non lo nemmeno io. Ah, di primo turno gioco Chum, lui non lo sa, però poi dopo gli scambio. Sì, vabbè, ciao. Almeno è 4 di trash, diciamo, almeno quello. Va bene, Cerebral Cast. Allora, gioia, ti piace? Allora, questa è un'operation, siamo entrati nelle operazioni. Costa 1 da giocare, è una Grey Op, quindi ci aspettiamo che faccia qualcosa di male, e anche Psi. Quindi, da giocare solamente se il runner ha fatto una successful run durante il proprio precedente turno. Fate il giochino Psi, e se il runner ha speso un numero differente di crediti, deve decidere se prendersi un bel brain damage oppure una tag. E qui a me questa carta piace, devo dire, abbastanza. Chiedo a voi, Francesco, dai, che te sei quello che ti piace di più di tutti. Si collega a quanto parlavamo prima, cioè una meccanica di tag in operation diversa da Sea Source Infection per Jinteki, con il supporto di Cermeniro, vuol dire bene. Se lo Psi entra, o giochi con 2 carte da qui in avanti e quindi mori, ciao, o ti prendi la tag e hai 3 carte e io ti scorcio e quindi ciao. Cioè, è forte, è proprio forte, anche perché non hai bisogno di avere il taggio economico. Cioè, sì. 5 crediti, ok? No, con 6 crediti, ecco perché devi avere la certezza. Con 6 crediti tu lanci queste, te ne restano 5. Ne hai 2 per fare il gioco, o meglio per permettere al runner di non capire che le tue scelte sono limitate, quindi 0, 1 e 2 rimane, e 3 tondi per lo scorcio. Cioè, una chiusura di partita così è forte, ragazzi, cioè, c'è poco da fare. E se lui ha visto che tu giochi gli scorcio, perché magari non uno scorcio durante l'arco della partita o qualsiasi altro motivo, non ha molta scelta, cioè rimane col dubbio, anzi è quasi preferibile. Cioè, se lui ha visto che tu c'hai uno scorcio perché ti ha fatto, che ne so, un indexing, oppure che minchia ne so, te l'ha messo in fondo, non può avere la certezza che tu non ce l'abbia in mano un altro scorcio, quindi si prenderà il brain, per dire, stiamo parlando dei mind game. E con Zio Hiro, si gioca a due carte. Tempo. Sì. Anche me è molto forte. Sì, è bella perché sia mette pressione all'inizio eventualmente, volendo, perché comunque e seconda cosa, innanzitutto costringerà i runner a farsi il conto dei punti influenza in qualsiasi momento. Perché io inizio a vedere che ci sta nella possibilità che ci sia uno scorched in giro, mi metto molta paura, ma mi devo prendere un brain damage, che contro Jinteki, l'abbiamo detto più volte finora, è pesante. L'unica cosa, ecco, rispetto a un Seasource, ovviamente Seasource di solito quando hai la certezza di poter chiudere, qui qualche volta potrebbe non partire l'effetto perché l'altro ci azzecca. Sì. E quindi, ma all'effettivo anche in Seasource, perché quante volte tu hai il setting giusto, lui chiude di edge full di ultimo click. Seasource è matematica, ti dice io c'ho più di lui, gliel'attacco, cioè so quando posso farlo, attendo il turno in cui rimane senza crediti. Qui, cioè, se voglio fare la combo tag scorched potrebbe non funzionare, quello è l'unico. Siamo lì, se ma stiamo parlando di giocatori esperti, io ti dico, sono un giocatore di Punitive, dove tante volte contro giocatori esperti questa finestra dello so, cioè lo gioco quando ho più crediti, non esiste. Lì si sta parlando comunque di una trace, per farti capire, cioè sì, un buon giocatore non te la apre questa finestra, qui a cazzo di culo ci puoi provare, cioè può essere Ok, però adesso aspetto il commento di Riccardo, e quindi ovviamente c'è, cioè, appena la parola a cazzo di culo è un bel problema per il gioco. Il costo è giusto della carta, secondo me, di meglio poteva essere solo a zero oggettivamente, e secondo me è uno strumento in più, tra l'altro, di pressione psicologica sull'avversario, certo. E quella è la anche cosa perché la puoi mettere e basta e millantare nella sua mente, esatto, di anche per, avere anche lo scopo. Forse tu gli vuoi fare il brain damage, cioè eccellente. No, ma anche perché di questi tempi, in realtà, in una fazione che non tagga mai come Jinteki, dare un tag con tutte le risorse che ci stanno in giro è comodo, cioè è utile, sì, in molti per casi. Per non parlare del tag punishment di closed account, sempre, esatto, sempre per esatto. Il discorso che se fai un mazzo che fa molti effetti psi, a te ti interessa fargli la tag, certo, per toglierli i soldi. E close, certo, accounts di influenza costa 1, quindi non è nemmeno impossibile da pensare, voglio dire. Chi, certo, l'ha mai messo dentro Jinteki? Adesso, tutto sommato, non è nemmeno così impossibile. Ok, Riccardo. Guarda, allora, tolto il discorso sulla meccanica psi, che ormai è inutile che ripeto, il problema è un altro, ed è l'esemplificazione perché la meccanica psi è sbagliata, qui come in Caprisni 6. Perché? Fino ad ora tu contro il Wayland, che è un mazzo sgravato perché ti ammazza a zero interazione, puoi farti i conti. Adesso il Wayland si sveglia, ti spara un Cerebral Cast, se gli dice bene ti ammazza e tu non gli racconti niente, salvo carapace a tavola. È una stronzata a livello, sì, di è gioco, vero, che è dimensione apocalittica. È cioè io il Wayland inizia, primo turno, ti può tranquillamente fare Cerebral Cast Scorch. No, primo turno, cioè, come terzo turno. Però quello che è, cioè, Cerebral Cast brain damage, dai. Ho capito, ti ha fatto un brain damage. Sì, perfetto, sì, no, sei a soglia, sì, cioè, è pesante. È una carta, sì, che sì, è pesantissima. Sta carta, secondo me, andava bene, se perlomeno se non ti desse il tag. Sarebbe stata molto più giocabile anche in Jinteki. Cioè, dava solo brain damage. Brain damage. È però un po' troppo forte dentro Jinteki, secondo me. Non è forte perché, sì, comunque c'hai una scommessa. Lo so, però devi avere uno potenziale. Ma sì. No, guarda che secondo me hanno messo il tag per cercare di depotenziarlo. No, secondo in un Jinteki sì. Proprio per la presenza di tag, io in Jinteki non lo giocherei. Cioè, però la presenza poi inizieremo a giocare tutti i decoy e risolviamo il problema. O NPD NPD City Hall. No, sì, Los Angeles City Hall. Los Angeles, sì, pardon. Insomma, è una carta secondo me dannatamente forte. Mi piace anche. Concordo. Però il problema è che tu la prendi, la metti in un Wayland e ti. Io adesso mi trovo. Sono fregato. perché vada come vada, lui mi ammazza. Non posso, non sono più sicuro di poter dire, vabbè, ho più soldi, almeno posso giocare. Quello potrà continuare a scorarsi l'agenda e io non posso fargli nulla. E farti però dei brain damage. Beh, coglione. No, va bene, sì, no, certo, ma tu la volevi cambiare in ti faccio solo un brain damage. Come ho già detto, è il momento che le corp tirino due pizze a sti insolenti, no, di rank. Io però in realtà sto vedendo, ci sta. Sto una, cioè, facendo un passettino indietro, la mia visione è che come inevitabilmente succede mano a mano che si aggiungono carte, la come dire, le corp stanno perdendo, le corp ma anche poi i runner stanno perdendo un po' i loro connotati archetipali, cioè stanno perdendo il, che ne so, Shaper Full Rig contro Criminal Mono Eventi contro Anarch Virus, cioè si stanno un po' mescolando queste cose, sta diventando tutto è un la po' pure più ora, diciamo, a questo punto. Sì, sì, e lo stesso sta succedendo per le corp, cioè la corp Wayland Tag and Bag non è più così da parecchio, perché anche MBN se lo poteva permettere, adesso se lo può permettere anche Gintech, cioè fondamentalmente sta diventando tutto un pochettino più sfumato, un po' come se non ci fosse più il concetto generico di influenza. Poi chiaramente non è così, però insomma mi sembra che queste carte qui ci portino un pochettino a questa sorta di sfumatura maggiore. Anche e questo è un problema con le carte e questo è un po' un problema con le carte Wayland, per esempio, perché un conto di lo Scorched Art, so che non è splashabile facilmente in giro, posso farmi conti con l'influenza eccetera, però mescolare le carte e insieme al fatto che ci sono delle carte che fondamentalmente ti ammazzano nel turno della corp, quindi senza che tu la run sbagliata e ti sei schiantata, sì, è una cosa un po' pericolosa a livello di gioco, onestamente. Sì, sì, sono d'accordo, cioè nel senso, nel momento in cui io mi trovo nella situazione in cui, a prescindere da quello che faccio, non potendo sapere come hai giocato l'influenza, finisco morto senza interazione, sì, un po' palloso. Che io ho detto, per me il Wayland Scorched Art è il fast advance dei run, ed è il fast advance equivalente, certo. È la stessa cosa, zero, cioè, interazione. È lo stesso motivo per cui odio Cerebral Imaging, però insomma, vabbè, è quella quando ti capita, stai giocando un'altra partita pure lì, secondo me, però vabbè, non gioco neanche a... Sì, sì, in un turno, sì, diciamo, sì, ok, a modo suo, sì, sì, ci sta. Avanzamos. Dai, sì, Medical Research Fundraiser. A parte, non abbiamo detto niente sull'aspetto, diciamo, del flavor, che mi sembra tutto super calzante, super bellissimo, cioè, ma anche l'artwork è una bomba, cioè, devo dire, carte bellissime. Poi questa carta Medical Research è piena di chicche all'interno, dopo, se ci avete fatto caso, ne parliamo dopo. Dopo ce l'immagine, dico. Ci sto guardando adesso. Vabbè, comunque è una operazione transaction, quindi Wayland sarà contento. Ti fa ottenere 8 a fronte di 3 di spesa, quindi costa 3 e ti dà 8. Però il runner si becca 3 soldini anche lui, quindi un net complessivo di 2, se non ho fatto male i conti. Cioè, nel senso, se consideri che quei soldi dati al runner sono come una sorta di soldi persi da parte tua, fondamentalmente ottieni 2 con questa operazione. Non è vero, perché poi per il runner i soldi valgono molto meno, nel senso che li fa con più facilità, quindi dare soldi al runner vale meno, quindi insomma è una carta carina. Riccardo, che ne pensa? Non solo economico, quindi per esempio in un Wayland da pernate quanti soldi il runner ha, quando a te te servo il botto di soldi per minacciargli uno Scorched, te ne frega abbastanza poco, quindi va benissimo. Anche perché è una potenza. Esatto, oltretutto. Poi influenza e uno, seconda, quindi... un'influenza, luscissimo, senza contare che poi perfetto, ma poco sto giocando con un NBN che ti tagga e ti tiene un po' taggato. Prima faccio questo e poi ti faccio un closed account per direttissima. Quindi sono 8 crediti, sono 5 crediti netti. È una buona carta, secondo me. O troverà tanto gioco in un Gintechi puro? Va, non lo so, c'è di meglio, onestamente. Però è plausibile, è fattibile come carta. Se miri a, cioè, in esempio con un Gintechi, se ti capita in early game, il tuo problema non sono i soldi che il runner ha, ma sono le carte in mano, quindi sinceramente dargli i soldi quando lui non ha gli icebreaker e si deve schiantare sui tuoi ice può anche andare bene. Si può giocare un'altra carta economia senza infamia e senza lodo, direi un 3 ci sta. Ok, siete d'accordo? Ci avete qualcos'altro da aggiungere? Sì, io dicevo no. Io l'unica chicca, ecco, per al di là appunto dell'esempio di prima, nell'NBN ci puoi fare i soldi per chiudere uno Psycho Bill fondamentalmente, ad esempio, se hai bisogno di quel boost economico, per dire no, la chicca a livello di hardware che avevano fatto notare su internet, vi siete chiesti perché anche i runner guadagnano con la fondamentalmente di gala per raccogliere soldi? Perché i runner sono nell'immagine. Il cameriere è Ian Stirling, molto probabilmente, che poi vedremo nell'espansione. Dovrebbe esserci nascosta, camuffata, se ho capito bene, anche Andromeda. Quindi l'idea della carta è molto, anche a livello di flavor, dicevamo, è molto, molto carina da questo punto di vista. È una buona carta, anche secondo me. Ah, ok. Me la voglio bere, anche se non sono tanto sicuro, però mi piace. Su Stirling sono abbastanza sicuro sull'idea, secondo me, che lui è infiltrato. Sì. E non mi di dettagli per cui la donna che sta passando è tipo Andromeda camuffata, una cosa del genere, però vorrei ricontrollare, ma se no non avrebbe senso l'idea che loro guadagnano, perché guadagnano anche loro tre? Però non lo so, infatti non lo so nemmeno io. Comunque passiamo a un po' di salsiccia dell'espansione. Mushin no Shin la conosciamo da tanto tempo, ci siamo già abituati a questa carta, l'idea che sarebbe arrivata, costa 0, un operation double, quindi costa 2 click da giocare, e le double per la corpo sono molto più pesanti che per il runner. E installa un asset, un'agenda o un upgrade dal tuo headquarter in un nuovo server remoto. Server remoto, attenzione, vuol dire che deve essere scoperto, non puoi aver creato non puoi aver creato, che ne so, un server protetto e metterci quella, o mi sbaglio? Sì, no, corretto. No, se no è la carta più forte del mondo. Sì, esatto. Prima. Mettici 3 avanzamenti e non puoi scorare o rezzare questa carta fino al tuo prossimo, all'inizio del tuo prossimo turno. Quindi attenzione a non fare le stronzate tipo, che ne so, ci metto Jackson Hour per farti ci rannare e poi dopo lo giro e lo trascio, perché non lo puoi girare nel turno dell'avversario. E nemmeno, che ne so, come si chiama, dai, Thomas Ass, pure Thomas Ass non ci puoi fare dei soldi con Thomas Ass, perché non lo puoi girare e trashare e attivarne l'effetto nel turno del runner. Se il runner ti giranna contro, gliela devi far vedere senza poter far nulla. Solo le trappole funzionano, sì, sostanzialmente. Sì, esatto, le trappole si attivano perché è il runner che cioè, vengono attivate dall'accesso del runner. Sì, vabbè, insomma, non potevano fare una carta più mind trick di questa, secondo me. Insomma, questa carta è stupenda. Infatti non è meravigliosa. Non vedo veramente nulla che possa. No, tra l'altro il grosso vantaggio di Mushin no Shin è che con quel click extra, proprio se vuoi giocare ancora più di mind game, ci installi un ice sopra. O ci metti un'altra carta nel server. Sì, certo. E improvvisamente l'altro si farà tante domande. E le partite a match point, questa è la carta che metterà più sotto terrore i runner, secondo me, delle nuove. O una delle. Questa non lo so, più che a match point, secondo me, in apertura, magari non di primo turno, se hai paura di multi accesso R&D, ma secondo me anche di primo turno. Se non giochi contro un criminal, tu ti prendi, ti installi il tuo server e ci metti sopra un bel ice wall, il classico ender run semplice, e ti parti a casa un'agenda facile, volendo anche una 5-3 se poco ci hai avuto la follia di mettere 5-3 nel tuo mazzo. Non solo, questa insieme a Plan B, che sta nella stessa espansione, è perfetta perché è una situazione di win-win. Tu installi, se accedono ti scorri un'agenda. Sì, vabbè, però cioè stiamo già nel calcolo combinatorio avanzato, nel senso che ci deve avere Plan B, questa qui, un'agenda da poter sostituire a Plan B, oppure... E tu devi aver deciso di rannarci. Sì, insomma... Ma sono, io quello che intendo dire è che Plan B è una situazione win-win, perché qualsiasi cosa tu faccia, lui sta bene dove sta. Se ci accedono ti porti un'agenda, se no è una sorgente stabile... di avanzamenti per Trick of Light. Sì, e questa nel Medical Advance, come si chiama l'identità Medical di sono tre di questo e tre Plan B, matematico, uno sicuri. Ah, e poi una cosa che abbiamo dato per scontato, ma è meglio ribadirlo, è sempre che la carta installata, ci si mettono tre advancement sopra, non è obbligatorio che la carta possa essere avanzata o meno, e questa è un'altra cosa molto... Appunto, male che vada, Plan B, che comunque potrebbe essere avanzato, è una batteria per Trick of Light. Ma io posso anche metterci il solito snare, la solita cosa, e provare a vedere se il runner ci casca. Certo. Che non è manco impossibile. Certo, quindi certo. È sempre forte. Cioè, sì. Magari non due, non tre nel mazzo, forse sì, forse no, ma due sì. Se la vuoi vedere in early, le devi mettere tre, se no è chiaro che non sì, è... Sì, giocarne tre è difficile, ma... Bene, vogliamo passare agli ice? Gli diamo un buon 4. Assolutamente. Sì, sì, ci sta. Ci sta, ci sta. Potrebbe anche diventare un 5, eh. Dipende, vediamo gli sviluppi. Comunque mi piacciono per lo stile Jintaki mi piace. Sì, sì, certo. Cioè, come gioca è un 4. Ok, passiamo agli ice. Inazuma. Costa 3 da rezzare, è un code gate, ha 5 di forza, quindi una signora razio fra costo e forza. Questo perché? Perché le subroutine sono un po' particolari. Il runner non può rompere le subroutine nel prossimo ice che incontra durante questa run. La seconda subroutine dice: il runner non può fare jack out fino a che non ha incontrato il prossimo ice durante questa run. L'unica cosa è che nel senso è un ice condizionale che deve andare sopra un ice che ti interessa, quindi insomma è un ice da... Beh, però consideriamo che gli ice che ci interessano in Jintaki sono, cioè, tanti, ma proprio tanti. Paradossalmente qualsiasi ice in grado di fare più di un net damage diventa un ice interessante, cioè runnare, fare naked run e vedersi rezzare questo, calcolando che è un code gate 5 che ci costa soltanto 3, come, cioè, ha lo stesso effetto emotivo di ricevere una cartella Equitalia, cioè non sai che fare, cioè, non è una sai condanna. Qual è la cartella dopo, esatto, cioè dici lo peggiorare. Secondo me è notevolissimo, anche perché, come ho detto, non è che devi cercarla poi troppo approfonditamente la prossima mestizia da metterci dietro. Fosse anche soltanto una Neural Katana, sti cazzi, cioè per 6 tu ti sei assicurato un server fino a che lui non avrà due breaker. Sì. Però gli hai fatto scartare. Sì, a me piace tre carte, infatti, cioè. Mi piace molto il fatto che non che abbia, al contrario della maggior parte degli ice che fanno degli effetti un po' cattivi, questo qui ha effetto anche dopo che l'ho rezzato, cioè nel senso posso rezzartelo sapendo che non è quello che non ha perso l'effetto sorpresa, cioè anche se lo sai comunque ci devi fare i conti, non è che dici vabbè adesso lo so, tipo che so, Neural Katana adesso lo so, vabbè mi preparo, mi pesco uno X carte e poi ci passo attraverso. No. Esatto. Insomma. Cioè, il fatto è che mettendoci anche dietro un ice wall, d'accordo, vuole semplicemente dire che quell'ice wall per essere breakato costerà 4-5 crediti. Cioè, no, perché? Fortissimo. È perché devi breakare questo prima. No, non c'è bisogno. Assolutamente sì. Ah sì, sì, sì. Hai ragione. Deve finire conto per forza e non Carlo. Sì. Poi chiaro. Per me le cose chiave su Inazuma, che per me attualmente uno degli ice più forti in giro da questo punto di vista, io lo aspettavo da quando è stato spoilerato, le parole chiave di Inazuma sono, ho già detto, code gate a forza 5, sì, quindi esatto, vuol dire che la strategia base di Yogg salta. Mm-hmm. Seconda Yogg cosa, sta chip. Esatto, cioè, seconda cosa chiave, secondo me lo rende ancora più terrificante, influenza 2. Perché influenza 2 vuol dire che dentro un Wayland, per dire, io ti faccio schiantare contro un Archer quando non te lo aspetti. Minchia. E brutto. No, vabbè. Se proprio vogliamo farci le seghe a due mani, dopo ci metti un Aur. O sto genere di robe qua strane, non giocabili. Quale, scusa, hai detto? Non lo so, per dire un Hourglass. Ah, quel server lì. Ci runnerà soltanto di ulti. Sì, però, è così, però era per tirare fuori qualcosa di simpatico. Ah, sì, no, però per Hourglass non gli farebbe nessun danno alla fine, perché i Fable, cioè ci danno all'ultimo, certo. No, beh, ad esempio... No, io dicevo, il discorso è che, essendo splashabilissimo fuori fazione, e qui con Unknown Profit scatta questa cosa, tutti i calcoli che avrei fatto fino a quel momento su cosa gioca normalmente una corp, ti vengono messi in crisi da una 1 veramente. Perché... finire su un ice, ma non voglio immaginare cose estreme che possono succedere, tipo Inazuma su Janus, che non ci voglio manco pensare. Sì. Cioè, non ci voglio manco pensare, no? Perché cose a caso. Che... però costa 18, quindi tutto sommato è possibile. Ho 4 per 18, io li pago, 4 danni sì, per sì, 18. Sì, però voglio dire, è, non so, devi essere in condizione. Però stai già vincendo se c'hai 18 monete, stai molto tranquillo, mettiamola così. Sì, sì, si sta facendo. Qui, e, no, no, e poi peggio ancora, con un altro ice che vediamo tra... è una situazione terrificante a costo minore. Che esatto. Poi la... no, a parte Archer, poi tra l'altro complessivamente ti viene a costare 5 monete perché ne riprendi 2. Sì. Quindi è peggio ancora adesso. Ma veramente anche sì, Inazuma Nero Arcatana di per sé... magari ti porta sì. 0 carte, cioè House of Knives hai perso. Sì, sì, pesante, pesante. Sì, sì. È una bella carta in tutto, cioè il problema è che è un ice posizionale e che al contrario di RSVP, che secondo me è il miglior ice posizionale anche ad oggi, perché comunque sì, tante può essere cose funzionano sugli upgrade, funziona sì, sul certo. Fatto che non ti fanno trasciare le cose, eccetera. Però per il resto è una gran carta, il problema è che è posizionale. La mia regola personale è che se ce li metto gli ice posizionali, ne metto un tipo. Se devo scegliere, fondamentalmente è Chum o Inazuma. Io ho il Chum perché lo vedo più flessibile, però... però Inazuma è una buona carta, ripeto. Se semmai renderanno giocabili le torri fatte come si deve con ice posizionabili, e non so come, in quale modo possano modificare il meta, modificare quali che renderlo possibile, Inazuma è una grandissima carta. Così è una buona carta. E... però ripeto, cioè, RSVP tutta la vita in confronto. È un 3 e mezzo. Quanto è di influenza RSVP? 2. Penso 2 sempre. Poi me lo vedo per curiosità. Comunque se sono pari sì. Cioè sono belle tutte. Fanno cose diverse. Però dentro me paradossalmente Inazuma fa più paura fuori Jinteki, perché non ci sto pensando che ce l'abbia l'avversario. 2 di influenza. Ok. Equitalia. Cioè... Equitalia, sì. Poi, vabbè, illustrazione bella, tu no, no, niente, cioè... Ci piace. Cartona. A me piace molto, piace molto. Già. Ok. Komainu. Komainu. Allora, 5 di costo. Sempre Ice, 4 di influenza, quindi ci aspettiamo qualcosa di molto gintecoso. 1 di forza a costo 5, quindi una ratio pessima, pago 5 per avere un 1 di forza, è una sentry, è una AP, quindi Deus Ex me lo mangia, e dice, quando il runner incontra Komainu, Komainu ottiene subroutine che dicono, fai un net damage per ogni carta nel grip del runner, quindi praticamente a seconda delle carte che ho in mano ci sono X subroutine su cui in mano che dicono fai un net damage. Non lo so, è una carta stupenda, c'ho solo un difetto, che costa 5 invece di 3. Il forza 1 te la è una cosa eccezionale, perché taxing... check, cioè è l'anti-face check. Vabbè, no, lo so, no, è una carta che questa qui significano 5 crediti a botta. È un taxing ice eccezionale. Il problema è che ha forza 1, quindi ti trovi contro uno che gioca un parassita e è finita, va subito a casa. Però è un taxing ice eccelso questo. Io questo in un Never Advance, ma magari averle. Il problema è che costa 5. Se fosse costato 3, 3 per 1, ok. Così, ripeto, è troppo scavato. Ma neanche troppo. Il problema grosso, ti ripeto, è che così come ora che... è troppo suscettibile, cioè se l'altro non ha Parasite è una carta fortissima, perché sono 5 crediti ogni volta che la provi ad attraversare. Però basta Fairy una volta, vabbè, sì, oddio, giusto una volta, vabbè. Sì, sì. Però da questo punto di vista è molto molto molto forte. Il problema, ripeto, è che è come il discorso del giocare il data dealer con l'agenda meno 1. Se trovi contro un tizio, e non sono pochi, perché comunque penso che l'Anarch sarà giocato nel 20% dei casi, qualcosa del genere, Il parassita ce l'ha sicuro, e questo va a casa altrettanto sicuramente. Però io una, due, sì, forse sì, le metterei anche sull'uno per tantissimo anch'io, magari anche tu. Il discorso è questo: secondo me questa carta, come un'altra che a me piace anche se i suoi difetti, come Ferris è una di quelle carte che metteva paura per quanto riguarda il face checking nel primo turno, perché comunque beccarsi un brain damage non è mai bello di apertura, e Komainu fa la stessa cosa, solo che adesso io dentro Jinteki me l'aspetto, quindi è molto difficile che inizi a fare delle run senza un fairy o senza una soluzione su misura sul momento, diciamo un Deus Ex. È vero, in quel caso dici non faccio face checking, la partita è diversa, sono d'accordo, diciamo io normalmente ho paura di un Neuro Arcatana, figurati se non ho paura di questa, e le monete sono 4 contro 5, quindi di primo turno me la fa al 90%. Muore di... Sì, dimmi. Però ripeto, a me questa non interessa all'inizio, costa troppo come carta. Io questa qui te la voglio giocare, è vero che se entra per carità è forte, perché probabilmente ti ho pulito la mano e all'inizio probabilmente hai Icebreaker, hai cose importanti, quindi per carità è forte anche all'inizio. Ma questa qui è sempre valida, ripeto, se non hanno i parassiti, perché in ogni fase del gioco crediti per entrare, 5 crediti per passarlo. Quindi... capisci, Riccardo, tu come valuti? Perché a me Tsurugi, cioè a me piace molto Tsurugi, e per certe cose mi piace anche... È un'ottima, okay. Stesso identico discorso. Ok, no, allora è chiaro, cioè tu dici io c'ho un Mimic, devo pagare tante carte quante quelle che ho in mano, e devono essere tante perché sennò perdo contro Jinteki. Esatto. Per superare, solo che questa muore più veloce di Parasite. Ok, ma anche Tsurugi c'ha lo stesso problema. Esatto, sono d'accordo. No, sono d'accordo. Infatti, la domanda è quanti parassiti gira. L'unica cosa è che, appunto, poi quando parliamo delle carte run, ne arriva un'altra nuova che è molto utile anche contro questa. E la rendo forte. È una carta run, accenno il nome, tanto poi ne parliamo, che è Grappling Hook, che secondo me diventerà utilissima prossimamente. E diciamo, io se sto giocando contro Jinteki, e questa la gioca solo Jinteki, perché 4 sì, di influenza, cioè magari qualcuno la splasha, però no, è molto, cioè tutto è possibile, dico sempre, perché io il matto davanti che fa uno splash che non ho calcolato è possibile, però è irrealistico. Diciamo che se una fairy e mi salvo in quel turno e poi cerco di trovare una maniera per spaccarla. Peraltro mi facevano notare che Femme Fatale lo scavalca a 0, certo, se ho capito bene, certo, che, sì, che è una cosa un po' meno bella, però non se la fa gli spettatori. Lo scavalca a 0 perché tu puoi decidere la sequenza degli effetti, e quindi siccome entrambi hanno il when encounter, praticamente fai il giocatore attivo e il runner, attivi primo il bypass e quindi a zero subroutine, e quindi sì, a me onestamente non fa molto impazzire Komainu, cioè il problema non è tanto quello che fa quanto il fatto che esiste, come si diceva, quindi va preso in considerazione, che vuol dire che un hai scoperto di apertura potrebbe essere un Komainu e porta il runner a giocare in una certa maniera, ma di per sé dire 5 soldi sono 5 soldi, senza contare che come molti di noi, cioè prima delle run per assurdo si decide quante carte pescare, cosa pescare, magari ci sono gli expose, vedi che c'è Komainu, una volta che Komainu è rivelato perde molto del suo potenziale, adesso i criminal, se Komainu e non server centrale, diventa comunque un ice passabile con una manciata di crediti. Esiste, e il problema è che esiste, però riguardo alla giocabilità marginale. Papa. Secondo me è, perché voi la considerate di face check e cose varie, sono 5 crediti a botta, non è poco, e tu hai pagato 5. Se non, non ci fosse per il forza. Parassita non esiste. Se il parassita non esistesse, Sarta sarebbe fortissimo. Però ci sta. Esatto, quello è il problema. Quello è il discorso, anche se non ci fosse. Però se ti trovi davanti un mazzo non Anarch, sta carta è fortissima. Molto forte. Gli Shaper un parassita me lo aspetto in giro, sì, sinceramente. Sì. Ma anche lì a quel punto pesca un Deus. Vale una volta sola, però... Cioè, insomma, è buona, secondo me... È molto più carina per stare in tema con la carta il cucciolo di Komainu che vediamo dopo, che quella invece è proprio sì, una bella carta. Quella è forte. Diverso. Concordo, quello è proprio forte. Passiamo avanti? Andiamo avanti. Andiamo. L'illustrazione è molto bella anche qui, giusto per stare in tema. Ah, è bello. Allora, pap. 1. 0 di forza, è un ice, costa 1 da rezzare, 0 di forza, quindi insomma onesto come rapporto. E due sabrotin, uno dice fai un net damage a meno che il runner non paghi un soldo, e l'altra dice, tanto così per variare, fai un net damage a meno che il runner non paghi un soldo. E quindi, poi dice yip, poi dice, che è fondamentale, che è geniale, e che, ed è Comaino da cucciolo, perché si assomiglia. Sì, è un cucciolotto di cane, demone, bestiale, satanato, che vuole ucciderci tutti, però è un cucciolotto. Sì. Bella, questa mi piace un tot, questa è veramente bella. Definizione di Taxing Ice, meglio di questa, in early non esatto. Paga. Poi tra l'altro, allora, a parte ovviamente gli americani che l'hanno subito ribattezzata pop-up window, quello lo diamo per scontato perché certo. Non ci pare vero, la cosa che avevo sottovalutato anch'io ogni volta leggendola, uno ha pop-up window come carta, solo che pop-up window è un codgate, questa è una sentry, certo. Quindi... innanzitutto cambia un po' il discorso, che non fa la stessa cosa che fa là, cioè non va bene, non va bene Yogg, che già quella è una cosa interessante, e contro un Mimic, per dire, costa uguale, quindi tutto già. Sommato fa quello che deve fare, cioè di primo turno se ci fai face check lo costringe a spendere due monete, è sempre bello, tutto sommato. Per il resto no, è forte, costa 1, 0-1 sarebbe stata più bella ma è un po' sgravata. Sì. E niente, quando magari iniziamo a vedere dei mazzetti con le varie, anche questa con un charm è infame, magari iniziamo a vedere dei mazzetti dove torna data mine, c'è questa, c'è charm, un secondo che c'ho la bimba che mi sì chiama. Sì, figurati. E allora continuo io il discorso, cioè questa è una gran bella carta, è anche influenza 1, non so su quanti splash possa vedere, anche però perché è... no. No, anche perché no, se vogliamo metterla dietro ad un chum, questa è notevolissima, perché se sì, tu esatto. Pavi 1 non l'hai rotta. E altra cosa è che tu se becchi un chum lo stai facendo con un codgate, e questa poi è una sentry, quindi comunque o c'hai un rig completo e vabbè, in quel caso stai a posto, cioè comunque è solo una questione di soldi. E bella, bella, secondo me ne vedremo tante e sì, mi sì. Piace bilanciata, direi... studiata bene, niente da dire. Diciamo che è evidente che qui net damage non entreranno mai, ed è una carta che costa 2, una tassa di 2 che tu paghi 1, quindi è perfetto. A meno che non arrivi il nostro cyber esploratore Shaper alla prossima espansione che prende. Però quella ma solo quando la rezza la prima volta, poi sono sempre due bombe. Sì, che sì, io dico la prima volta. No, però la prima volta si riprende. E comunque paghi uno la prima volta sì. Con l'esploratore. Quindi... Ah, è vero, quindi uno lo guadagna. Ok, so, vabbè, queste sono. Ragazzi, no. Cioè, sì. Basta. Okay. È un'ora e venti che stiamo parlando e non abbiamo ancora finito la corda. Cioè, stiamo veramente fuori di testa. Pap è una buona carta, ci piace. La vedremo giocata, costa uno di influenza. Passiamo oltre. Allora, Shiro costa 6 da rezzare, è un code gate 5 di forza, quindi una razza interessante. Look at the top 3 cards, quindi guarda le prime 3 carte di R&D e arrangiale come vuoi. Questa è la prima subroutine. La seconda subroutine, il runner accede alla prima carta di R&D a meno che la corporazione non paghi un soldo. Quindi se questa cosa ha effetto, mi guardo le prime 3 carte, vedo se c'è una trappola interessante, se c'è la metto su, se invece non c'è una trappola e non voglio che acceda perché magari ci sono 3 agende oppure agende più roba che non voglio che lui guardi, pago un soldo e evito che la subroutine, la seconda subroutine, quella dove il runner accede, abbia effetto. Vi piace, non vi piace? Costa 4. Questa sopra R&D. Questa sopra R&D è molto carina. Il problema è che sinceramente costa un po' troppo e io ci metto Yagura per ottenere un effetto simile. Sì, sì, sì. Sì, la cosa carina è che funziona anche fuori da metterla davanti a R&D, sì, come è esatto. È molto, gli inglesi direbbero situational, nel senso che se poi becchi 3 carte invece, cioè sì, sì, paghi uno. Sì, però hai pagato 6 per rezzarlo la prima volta, se, cioè è carina ma la vedo di difficile utilizzo, ecco, qualche volta tra l'altro se il runner è in grado di spaccare una delle due subroutine l'altra no, non lo so, cioè carina, però boh, non ci riesco a vedere la strategia sopra. Sì, se proprio vogliamo trovare il Meta Fanta Power combo impossibile da realizzare, tipo chum chum chum per yak e cacchio, ne sono c'è l'ice del bioroide che dice che il runner potrà cedere soltanto una carta per turno. In questo modo, se tutti e due entrano, non vengono breccati, tu riesci a vanificare una run facendola cedere ad un edge fund. Vabbè, per sì, in quella partita sei molto felice, nelle altre 50 però non succederà mai. Quindi. Lo so, no. Però tu agli amici racconti quello che fai di merda, che fai di merda, quindi è ovvio. Comunque. Al bar te la godi lo stesso. Passiamo oltre, dai. Per me è poco. Dai, un 1, 2, insomma, 2, dai, 2. Un 2 e mezzo, una cosa. Oh, Susanna una minchia, questa ci piace. Susanu no Mikoto. Allora, costa 9 da tirare fuori, da rezzare. È una sorta di divinità particolare, chiamata... È una Sentry Deflector. È 7 di forza, quindi ci interessa. Molto interessante. Ha un'unica subroutine che dice: se non stai runnando sugli archivi, il runner in questo momento sta runnando sugli archivi. E invece di passare... sta runnando sugli archivi invece di passare di superare questo ice. Il runner non può fare jack out fino a che non ha incontrato un altro ice, e quindi insomma ti obbliga eventualmente a incontrare un ice che ci sono sugli archivi, se no devi per forza accedere agli archivi. Questo fondamentalmente è il bullo giapponese che ti infila la testa nel water, cioè fa esattamente quello, solo che in quel water lì, se hai un certo tipo di mazzo, insomma, c'è tanta bella roba. Può essere senz'altro simpatico, richiede un mazzo ovviamente che abbia una strategia già di base portata su quello, quindi mi viene da pensare ad un Personal Evolution con tutte quante i vari shock, le varie, non mi ricordo come si chiamano, le porte che triggerano CPU. Dall'archivio CPU. Esatto, però sostanzialmente non è affatto brutto, anche perché all'effettivo è andare a run sostanzialmente, esatto. Cioè nella misura in cui il runner ha inteso la run. Andiamo a vedere 7, che c'è là sotto. Ha una sentry a forza 7, poi, quindi comunque... sì. Cioè, l'unico bimbo che può accarezzare sulla testa quest'altro bimbo è Giano come forza, che comunque vattelo a breccare, Giano. Non è affatto male. Costa quello che costa, naturalmente. Vabbè, però tanto comunque verrà giocato in mazzi che... Lo rezzano solamente quando, che ne so, hanno la combo settata sugli archivi, tipo. No, hanno... secondo me no. Secondo me questo è un enderun ottimo. Secondo me è un enderun che non solo lo costringe eventualmente, ti costringe a incontrare l'ice che vuole lui, perché l'ha messo sugli archivi. E se no, non l'ha messo, fare il jack out. Però devi incontrarlo prima. Scusa. Prima devi incontrarlo. Poi dopo può fare jack out. In realtà no. Perché se sugli archivi non può fare jack out. Allora, the runner cannot jack out until after your she encounters a bit of ice. Se nei tuoi archivi non ci sono ice, è in più per forza. Io dicevo, o lo mando sull'ice che voglio io, perché magari c'ho un motivo, perché magari ci ho piazzato qualcosa con cui lo voglio steccare. Se poi, e l'abbiamo detto prima, ho imbottito l'archivio di shock, di Shikyu e cose del genere, si prospetta male. E comunque anche avete le contromisure per breccare Susanna qui, un sentry a forza 7 non, se ti viene rezzato a sorpresa non è che lo superi facilmente. No, chiaro. Ma è un ottimo enderun, ma al di là del gioco sugli archivi è un enderun. E al Jinteki manca un enderun grosso. Sì. È un'ottima carta. L'unico problema è che è unica. Quella è la sfiga gigantesca. Sì, non ne puoi mettere tanto. È il Wotan di Jinteki, fondamentalmente. Come sea. Divinità giapponese invece che nordica. Bravo, dai. Me piace. Piace. Un 3 a dir tanto, via. 3 e mezzo anche. Il problema è Big Ice. Esatto. Il problema è se i big eyes è difficile giocarli, specie in Jinteki, però... Cioè, voglio dire, sì, ma i big eyes di Jinteki li abbiamo visti un attimo fa. Cioè, ti fanno vedere tre carte e ti fanno accedere o non accedere. Un big eyes che dice... Mote fregno de mazzate, oppure fermati qua, loro non ce l'hanno. Cioè, questo, esatto, sì, questo ci voleva. Ok, passiamo finalmente alle agli upgrade. Neo Tokyo City Grid, chiaramente sempre Jinteki, costa 2 da rezzare, 5 da trasciare, ci piace molto questo rapporto. È una regione, quindi va limitato, diciamo, a una regione per server, non ce ne possono essere di tante tipologie di regioni. E dice: la prima volta che un advancement token, quindi un avanzamento, è piazzato in una carta in questo server, ottieni uno. Quindi se ci metti, insomma, è una carta pseudo economia, non so come raccontare. È una merda. Allora, io questa carta ho avuto, la prima volta che l'ho letta, ho detto: questa carta è un auto include nel 10 in 5. C'è solo un problema, che non avevo letto in this. Che certo, significa che solo gli avanzamenti sul server, non solo, neanche gli ice di quel server, perché è in, esatto, il, sì, server. Cioè, e manco tutti, c'è uno solo. Per un click e due soldi. Sì, vabbè, dai, uno e passiamo oltre, via. Uno e oltre, vai. Tanto non vedrà il gioco. Tori Hanzo. Allora, Tori Hanzo, innanzitutto penso che sia una citazione a un leggero gioco di parole, sì, Hanzo, sì. Atto, sì. Quella è proprio una lama, sì. Sì. È lui. E è un upgrade, costa 3, 2 da trasciare. C'è una donna però qui davanti, non è che c'è un uomo, quindi vabbè. Ma è Tori, infatti. Ah, dici, non è il gioco di parole è quello, perché Tori è il nome femminile. Ah, quindi... Ok. Ci siamo adesso. La prima volta che faresti un qualsiasi quantitativo di net damage durante ogni turno, quindi ogni turno, una volta per turno, in cui dovresti fare portare qualsiasi di net damage, ne fai, puoi invece pagare 2 e fare un brain damage. Federico, scusa, è un pelino diverso, mi sa, occhio, perché dice: la prima volta che faresti durante ciascuna run su questo server qualsiasi quantitativo di net, puoi pagare, quindi vale più volte potenzialmente, non è solo la... Ok, durante ciascuna run, quindi è multipla, potenzialmente vale. Sì, corretto, sì, scusa, sì, ma perché avevo notato... Sì. Allora, quindi la ritraduciamo: tutte le volte che fai una run su questo server e faresti del net damage, a la prima volta, quanto, sì, a prescindere da quanto ne fai, la prima volta che fai del net damage, paghi 2 e invece fai un singolo brain damage. Quindi, chiaro, Neural Katana da 3 net damage diventa un brain damage. Tutta la vita un brain damage. Ma sì, chiaramente, ma chiaramente, a meno che non ci uccidi il runner, insomma. E non è male, insomma, questa è mi fortissima. Piace. È fortissima. L'unica cosa, Trash 2, quindi funziona una volta sola, via, dai. Però la forza di Tori Hanzo, per quanto mi riguarda, a parte ovviamente influenza 4, perché sennò per carità, è gintechissima, però. Vabbè, i net li fanno poi loro. Sì, sì, lo so, però, diciamo, quello di lei è questo, innanzitutto... È un upgrade che metti da qualche parte e magari non se l'aspettano. C'è un solo dubbio che è stato già posto e sarà oggetto di FAQ sicuramente, cioè se nel momento in cui tu staresti facendo net damage puoi già convertirlo o l'avversario può prevenirlo? Perché questa no, è l'unica perché cosa... dice you will do, quindi, lo so, esatto. Lo so, quindi la domanda è: può prevenirlo oppure il dubbio ce l'avrei? Secondo me no, però cioè, lo vedremo. Ma secondo tu me fai danno, cioè... no, se non viene prevenuto. Cioè, se... no, allora la sequenza è allora questa. Io decido se pagare oppure no. Nel momento in cui decido di non pagare, ti farei del cioè ti faccio dei net damage e tu eventualmente li previeni. Esatto, perché è would do contro would take tipo di Deus Ex. Ora, tendenzialmente, pur essendo suo il turno, questo è un effetto che si deve applicare comunque per forza prima della prevenzione, altrimenti non è semplicemente applicabile. conseguenzialmente perché nel momento in cui io prevengo dei net damage vuol dire che tu me li stai facendo, ma se io ancora, lo so. Ma se io ancora non mi è stato dato al di là del fatto che è, due, no. Insomma, che è irrilevante perché comunque poi quei net non vengono fatti, quindi sostanzialmente tu stai prevenendo niente. Comunque, cioè, detto, detto questo, che è una questione che tanto verrà risolta sicuramente, se non è già stata chiarita, è la cosa che questa va in combo con House of Knives, perché sì, tu la metti in qualunque serve e quella vale. Sì. Perché il problema potrebbe essere della di carta base di Torianzo, io faccio un server, la metto a protezione, il runner attacca, l'arezzo se faccio danno, e invece con House of Knives tu qualunque server vai dove c'è lei... Sì, sì, non hai bisogno damage. Che ci sia qualcosa che fa danno direttamente e nel o server. La spacchi oppure ti sarai costretto a beccarti un altro brain damage. Sì, sì, certo. E non è detto che la spacchi. Chiaro. Poi... Forte, è forte. Sì, sì. Invece secondo me non è granché, devo essere sincero. Se è decente, decente se hai portato a casa prima un House of Knights. Altrimenti è una carta che ti costa 3 di res, si trascia a 2, funziona solo sul server quello, devi pagare ulteriormente e devi averglieli fatti quei danni. Cambia un po' rispetto al discorso, perché secondo me se il runner se li previene questa non si attiva, però provo da chiarire la cosa. Non lo so, secondo me non vale lo spazio nel deck, onestamente. La puoi mettere in uno per giusto per prova, e se magari tante volte ti viene la cosa divertentissima insieme a Caimanu lì, come si chiamava? Comani. giusto for the lols. Secondo me, sempre nella meccanica Never Advance, lei o Kusei Grid, puoi metterci il cacchio che ti pare dentro. È ottimo. No, perché c'è altra roba nei Jintaki da mettere in un Never Advance, è già le trappole. Non ti servono troppo gli upgrade. Kusei Grid effettivamente ha effetto. Sì, scegli l'ordine, attivi prima Hokusai e poi la converti. Quindi sì, funziona. Sì, no, ma comunque Hokusai è a successful run, quindi ancora il runner non può accedere. Esatto. Sono comunque 5 crediti per un brain damage che funciona una volta sola. Non lo so. Sti cazzi, ma che rimane tutta la partita. Ho capito, però ci metto il coso, ci metto il cagnone. Non sono sicuro che funzioni una volta sola, è quello il discorso, nel senso, perché se io la metto a protezione di un server e cioè, diciamo, il discorso sì, è molto legato a uso, però ne vedremo tante, non è così impossibile quello. No, cioè a me piace, poi vabbè, ci sta, è situational pure lei, sono d'accordo. Se io ti faccio una run sul server dove sta lei dopo che l'hai rezzata, è perché te la trascio. Perché ho fatto i conti e te la posso lasciare, te non run in quel server. Ma non lo sai. Ma io il brain te l'ho fatto, vai. La prima volta. La prima volta, super... appunto, mi becco un brain damage, forse. Però sto giocando pure Cerebral Cast, sto giocando... Cioè, quello è il... Vabbè, vedremo. Allora, è lo stesso concetto di Hokusei Grid. Cioè, si dicono le stesse cose. Una volta che mi hai fatto quel danno lì, poi dopo io vado e te la trash. Vai, spendi altri soldi, te ne becchi in altro, insomma. Sempre però... No, quello che ti voglio dire è che il discorso funziona perché effettivamente al Jintaki serve il brain damage. Non glielo puoi dare facile perché già Edge of the World secondo me è brain damage troppo facile. E quindi hanno fatto bene a darglielo perché non vince senza brain damage il Jintaki danno. Però questa carta non mi sembra, cioè io vedo adesso che su qui Alex Frog gli ha dato 4 su 5. Ma stiamo scherzando, questa è una carta da 4, no, assolutamente no. Non me la puoi paragonare a House of Knights che gli ha dato lo stesso voto. Secondo me è una carta da 2.5 case. Adesso appena prendi il primo brain damage ci ripensi, dai. Comunque, facci caso, la prima cosa che dice Alex Frog è very deadly with House of Knives. Cioè, il ragionamento suo è quello pure. Però di nuovo è una carta che ci devi avere House of Knives, devi avere lei e pure in questo caso gliene fai uno. La usi una volta. Non lo so, cioè io preferisco giocare una volta è sufficiente, volta questo che la usi una volta se non c'è una carta Sinisei per dire, vabbè, poi sarebbe andare troppo avanti, però vabbè, ma so aggiungiamo carta alla combo. Lo so. Ma vedo come andiamo avanti, rega, che per me il tempo stringe, dai. E poi da 1 su 5 a plan B sto demente, capito? Scusate. Vabbè, ho capito. Così io però concordo qui. Allora, plan B siamo entrati nell'area delle carte neutre. Zero da rezzare, è un ambush anche questo, quindi mi fa piacere che comunque abbiano mantenuto un certo flavor Jintaki anche nelle neutre. uno da trashare, al contrario della maggior parte degli ambush che costa 0. Essendo neutra, vabbè, sì, non è automatico, comunque non ha influenza. E plan B può essere avanzato. Se il runner accede a plan B, puoi rivelare e scorare un'agenda dalla tua mano con una che abbia una quantità di avanzamenti uguale o inferiore al numero di avanzamenti che sono presenti sul plan B. Quindi fondamentalmente la avanzi come se fosse un'agenda, se per caso il runner te la becca, la sostituisci e quindi lo inculi. A me non piace, perché secondo me a meno che tu non giochi carte con costi di avanzamento, cioè scusa, non giochi agende con costi di avanzamento molto alti, quindi tipo giochi agende 5-3 oppure anche la mandatoria upgrade da 6, questa carta manca della capacità di poter sembrare una trappola. Non lo so, concordo. Ma ragazzi, ma questa non è una trappola, non mi fate la visione tunnel tipo gli americani. Questa qui, se la funzione è una trappola, è una cagata, sono d'accordo. Non è una trappola. Questo è un deposito indistruttibile di segnalini per il coso. Così mi piace, così mi Trick of Light. Cioè, Sarta è potentissima, io li metto lì, ci metto i segnalini. Se me la c'è di scoro, se non me la c'è di scoro uguale, perché è dannatamente forte plan B. Chiaramente sì, la devi mettere in un fast advance, non la devi mettere in un mazzo danno. Vabbè, non c'ha senso lì. In un fast advance sta carta è fortissima. Sì, in un fast senza contare Mushino Shin. Pure senza quello è automatico. Mushino Shin è proprio la carta, perché appena la vedi con, cioè vedi una carta con tre segnalini, ti metti molta più paura. Perché potrebbe prenderla il turno dopo. Capisco e aggiungo. Sì, okay, dicevo, con Mushino Shin questa carta è fortissima, perché oggettivamente una carta con tre segnalini ferma anche mette paura. Kalan Vance non mette tanta paura, però ovviamente l'avversario, se sta giocando contro Jinteki, qualche dubbio se lo fa, che può essere un Jumbug, che può essere qualunque cosa. Sono d'accordo sulla batteria per i segnalini, però chiedo a Riccardo per curiosità, quante ne metteresti in un mazzo? Dipende dal tipo, se è un fast advance... Io ne metterei minimo due, se non tre. Ne metti due perché c'è il mazzo da 40 carte. Perché si trascia uno e quindi a livello di ricerca nell'R&D inizia a spaccarsi facilmente se ne metti un tot. Detto questo, è una bella... Cioè, non so, col buono, perché abbiamo detto ormai il voto qui che ho dato, non so... Io non è una buona carta, magari in un 1 per o 2 per in alcuni mazzi. Devo vedere una giocata contro, anche perché è la prima carta che introduce una nuova possibilità di vittoria nel gioco, che è vincere per punti agenda del turno d'avversario. Sì. Che non esisteva prima. Sì, sono d'accordo, non mi fa impazzire questa carta, però uno è Burke Bugs. Quindi sì, diciamo, cioè, siamo su due categorie comunque diverse. Ma un qui tre... secondo me 3, sì, dai. Un 3 con la riserva del pretesting. Io un 3 con la riserva del dargli 2 a seguito, esatto. Secondo me un 3 e mezzo con riserva solo in sopra. Sì. Ok. Passiamo agli ice neutrali. Allora, ice neutrale che non richiede influenza, quindi veramente neutrale, costa 4, ha 2 di forza, è una sentry pura, non ha nessun altro tipo di ulteriore caratteristica. E come abilità speciale dice guard non può essere bypassato, quindi questa carta si chiama guard e non può essere bypassata, quindi insomma femme fatale non riesce a bypassarla. E l'unica subroutine che ha è un enderun carina. Beh, femme fatale, faint, un sacco di carte non riescono a sì. Io a me non piace per il fatto che è una sentry, se fosse stato... È quella la cosa forte. È quella la cosa forte, secondo me. Poi secondo me è forte per quella. Cioè, tu dici, è bella perché non è... Perché posso... Mi prendo 2 secondi per quello. Allora, secondo me questa è la versione bella di Fenris, nel senso... Allora, il costo è uguale, se ricordo bene, sì. 4-2 per 4-2. È sentry, quindi comunque... Il discorso fan fatale, purtroppo, il discorso base fan fatale a forza 2, quindi lo scavalca con 1. Cioè, ci ha buttato i soldi, se ce la mette sopra, però passa con... No, il discorso è che questo è l'anti-inside job, e siccome inside job se ne vedono una quantità disumana, sì. Io posso mettere... Potrei fare, ad esempio, Mushino Shin, ci metto davanti questa contro Criminal, prima o dopo porta a casa l'agenda. Esatto, cioè che se lui prova comunque, lui prova a attaccare, cioè se lui prova a attaccare e lo blocco, o c'è un anti-sentry e allora ho fottuto comunque, scusate il termine, oppure quell'inside job che aveva pianificato se lo tiene in mano. E 4-2 è un buon costo, secondo me non muore manco così facilmente. Sì, un mimic passa con uno, però tutte le sentry da due, un mimic passa, cioè early game secondo me è molto forte. È vero che la carta che gli mette più paura su tutte è inside job, ma a me mette tanta paura in early, cioè io non so, anche magari in un fast advance, in cose del genere, sì. Poter calarla subito sapendo che non rischio inside job è una bella cosa, cioè, a me piace molto sinceramente. Adesso che avete tirato fuori inside job me la sto rivalutando, perché effettivamente non avevo considerato che è un bypass quello di inside job. L'unico modo per cui poteva essere più forte questa era se era una 0-1 senza can bypass end run e che viene trasciata quando cioè un paper wall sentry, perché è eccezionale per quello, perché è una sentry end run che costa poco. No, a me non piace bellissimo. Il fatto che era una sentry, perché il primo icebreaker che un runner prende di solito è un sentry breaker, per il semplice fatto che si garantisce che i face check non gli rompano i programmi. Ma con un NBN tu andresti a prendere uno spacca sentry? No, prendere un corroder, lo so. È esatto. Quello il discorso, cioè siccome una carta molto giocata la neutralizza. Se fosse una carta di fazione che costa punti influenza mi piacerebbe molto meno. È neutra, magari un paio, non ci vedo niente di male. Dipende quale sento di gioco, ma un end run a 4 è buono, secondo me. Sì, tra questo e Bastion credo che comunque valga la pena giocare questo. Assolutamente, sì. Bastion te lo scavalca, sì. Soprattutto, e quello è il problema. Runna, ti fa perdere 4 monete, bypassa, entra. Questa diventa la possibilità di portarsi a casa un'agenda sicura, fondamentalmente, di primo turno. Se tu in mano... cioè, e questa, installi se vuoi ricopri R&D o probabilmente dei soldi, e il turno dopo porti a casa l'agenda, perché tanto questa e vedi la peggio ancora, Mushin no Shin ha risparmiato pure i soldi dell'advance pure, vabbè, quindi volevo arrivare fino no, a no qui. Dico, cioè, ma tanto lo vedremo, è quello il discorso, cioè, sì, beh, solo che ti ha fatto 5 run di medium su R&D se tu apri di Mushin no Shin e lo proteggi comunque, però no, Jinteki non soffre medium. Però tanto una run scoperta su R&D contro Jinteki è sempre... non dipende. Certo, indexing è sempre più forte attualmente, ma in discorso a parte. Rainbow. Insomma, questa gli avete dato un 4, dai. Me lo dico io che cosa gli avete dato. Rainbow possiamo passare oltre, secondo me, diretti. È una sentry con gate barrier, quindi è un ice molto particolare, neutrale. Può essere rotto quindi da qualsiasi forma di icebreaker. Però a costo 3 è un 4 di forza che ha la sua simpatica end run. Doveva avere molta più forza per essere valido. Sì, è stato un 3-6, un 3-5, oppure anche un 3-5. Poco, oppure costare molto meno. Oppure costare sì, oppure un 1-4. Sì, 1-4 ci mettevo la firma. Cioè, è un best, un costo che costa un in meno breccabile dagli altri esseri. Però il problema è tutto lì. Gli costa anche agli altri per entrare, però entrano. C'è tutta quella menata che è taxing, non è, è taxing, diciamo, però dipende cosa tu vuoi fare. Di primo turno entri. Cioè, non lo puoi usare per proteggere una carta di primo turno ed è troppo piccolo per il late game. Sì, se tu vuoi più che forza alza, era meglio se avessi avuto costo più basso. Se vuoi fargli spendere soldi, glieli fai spendere, questo è vero, lo costringe a cercarsi un corroder fondamentalmente. Però lo faceva pure Bastion, allora Va bene, passiamo a un'altra, a un'operation, l'unica operation neutra, no scusa, una delle due operation neutre che vediamo in questa espansione, costa 1, Diversified Portfolio, e ti dice, è una transaction, quindi Wayland ringrazia, ottieni uno per ogni carta installata in un server remoto. E scusa Federico, è per ogni server remoto che abbia una carta installata? Sì, sarebbe un po' forte. Che forte secondo me, invece non... Cosa ho detto allora? Scusa, io volevo. E io ho capito, per ogni carta installata in un server. No, certo, hai ragione. Hai fatto bene a chiarire. No, volevo dire, per ogni server remoto con una carta installata sopra, fondamentalmente. Replicating Perfection. Non lo so. Funziona per i mazzi orizzontali che non funzionano, quindi. Esatto. Cioè, il discorso è che questa in un mazzo, cioè se Netrunner fosse Mage Wars, in cui tu puoi accedere a qualunque carta in qualsiasi momento, sarebbe carina. Se io devo occupare spazio nel mazzo per guadagnare soldi mettendo tanti serverini piccoli, cioè devo iniziare a averne 4 o 5 per dare un senso alla carta e togliergli lo spazio fondamentalmente, che tolgo, cosa metto? Cioè non mi convince, a meno che non esista una carta che installa tre serverini con te, cioè fa dei token, delle cose, non lo so, non gli ha senso. Si chiama l'Operation Corset dell'HB. Tu dici Ship and From Mirror Morph, sì, no? Esatto. Sì, però devi esatto. usare tre carte dalla mano, è quello. Vabbè, chiaro, cioè, no, dico nel senso, non la vedo, cioè al momento non trovo l'investimento economico per mettere le carte, però ci sa. Parliamoci chiaro, sta carta ha senso se c'hai almeno 4 server. Esatto. Se no ti conviene mettere un Beanstalk. Anzi, anche con 5 server, no, metti il Beanstalk. Sì. Quindi, onestamente, la vedo molto poco giocabile. Io non la vedo mai 4 server. Mi piacciono, però penso che non si potrà mai giocare sta cosa. No, the very last one. Mai no, però per mai ora, no. Insomma. Per ora no. Cioè, ha più io senso lo perché i server orizzontali, avere tanti server aperti, a me piace come idea. Però il problema è che pura come ora gli asset... Il problema è proprio all'origine, i runner hanno troppa economia, quindi gli asset le trashano. Se fosse stato un'altra storia in cui trashare un asset non era una cosa che il runner fa così a cuor leggero, poteva essere. Ma già fosse stato, guadagna due monete per ogni server... È molto forte, però dici almeno ha un senso, cioè inizi a giocare tre server, ti dà 1-6... Ok, ve la cambio io mixando un po' le due cose che avete detto. Guadagna due monete per ogni server remoto oltre al primo. Ah, quindi guadagnavi 1-4. Sì, poteva avere senso, sì. Comunque, in generale, magari in un futuro io lo spero, perché l'idea mi ispira un sacco, si potrà giocare orizzontale. Qualche carta che supporta la cosa c'è, perché c'è l'asset, quello HB che ti aumenta uno il costo di trash, però ancora non ci siamo. Se mai si riuscirà a fare, questa carta si può giocare. Andiamo alla vera bomba. Gran finale della curva. Sì, Dulcis in fundo, Fast Track, un'operation che costa zero. E ti dice search, quindi guardati il mazzo e cerca un'agenda, rivelala e aggiungila al tuo headquarter, quindi alla tua mano, e poi ti reshuffli il mazzo. Tutorare, detta la magic, tutorare le agende. Che ne dite? Questi cazzi dico non è double, cioè dico è fortissima. Sì, non è manco double. Doveva essere double, doveva costare qualcosa almeno. Cioè al di là del double, sono d'accordo. Io mi ricordo la grande discussione quando c'era lo spoiler non completo era: vabbè, ma costerà almeno 4, 5, qualcosa del genere. Poi è uscito che costava 0. E fondamentalmente, cioè, io già di solito, ad esempio, in Wayland parlavamo prima, ci sono momenti in cui tu riesci a fare un overscore su Project Atlas, stai a un tot di punti e fondamentalmente hai vinto la partita se ancora stai il takeover. Qui il mazzo dominante attuale è NBN. Sì. NBN si va a cercare o l'ennesima Astroscript che ha già i segnalini da parte. No, ma si cerca una 3-2, la caccia su Sansan. Sull'upgrade, poi ci mette un token di Astroscript e la scora. Ciao. Oppure, peggio ancora, runner è taggato, cosa non impossibile visto che mid-season gira. Mi cerco Project Bill, la calo, gioco Psychographics, vinco la partita. Che voglio dire, si fa normalmente. Qui lo puoi fare nel turno tuo. È forte, molto forte in determinati mazzi, ma in generale anche andarmi a cercare quell'agenda per chiudere. Cioè, almeno ecco, forse l'unica maniera per renderla un po' meno sgravata, gli davano dei punti influenza. Quella è l'unica cosa dove magari. Dice è neutra, però ti costa due punti influenza. Sì. Tre punti influenza. Allora gioco NBN The World is Yours, ma c'ho 12. La prima che metto 9 influenza. Questa è una delle prime carte, secondo me, che rischia, se il trend è ancora questo, perché poi ovviamente cambia tutto con Upstalk, di poter diventare una restricted potenzialmente, se inizia a essere nel senso, il problema grosso non è in questa carta. Il problema grosso sono sempre il suo discorso, è il fast advance, la presenza del fast advance, perché questa carta ha perfettamente senso in un'ottica in cui non esiste il fast advance, perché ti permette di evitare quei casi in cui tu magari sei nella fase, l'unica fase in cui la corpo può vincere, cioè early mid game, sì, che non peschi la gente, perché a me è capitato di perdere delle partite che potevano essere tranquillamente vinte con uno che giocava uno Shaper che si era installato anche le mutande della zia, aveva installato tutto, non aveva fatto una run neanche a pagarla, perché avevo tipo 10 agende nelle ultime 12 carte. Questa cosa ti permette di limitare la sfiga, è un po' come il discorso di Andromeda, o anche come il discorso di Jackson Howard. Tutte le carte che limitano un po' la sfiga mi piacciono. Il problema è che poi prendi e funziona direttamente e degenera in fast advance. Quindi il problema non è questa carta, il problema sono state le carte 3-2 che hanno stampato. Ve la riracconto per come doveva essere. Stessi costi, va bene neutra, va bene operation. Rivela carte dal tuo mazzo finché non trovi un'agenda, rimischia le carte rivelate tranne l'agenda, aggiungi quell'agenda nella tua mano. Insomma, non la cerchi, ti metti un'agenda in mano ma non decidi qual è. Però stai rivelando tutto essere mazzo all'avversario? Sì, esatto, un piccolo drawback ci poteva stare. Oppure così è semplicemente sbravo. Facciamo diventare come le altre 3-2 1 per, diventa sottoscritto limitato a 1 e improvvisamente non fa così paura, però certo, quello è un discorso loro dopo. No, ma guarda, devono trovare un modo per prendere lo style takeover che ti fa da 6 a 7 punti. Insomma, ma già però quella vale un punto, quella ti dà gli advance e vale 2 punti. Vabbè, ma queste sono divagazioni. Però cioè, attualmente io so che se giocherò davanti un NBN, lui ne mette due, almeno due nel mazzo. Se no è matto, secondo me. Io perderò trovare counter al fast advance, che purtroppo non ne sono riuscito a tirare fuori, e quelle poche che hanno tirato fuori sono talmente tanto limitate che alla fine devono essere limitate, perché una counter al fast advance per definizione, aumentando il numero di punti perché ti servono per avanzare un'agenda, limita anche gli altri mazzi, perché poi si trovano quelli che giocano le 3-5, che è il vero netrunner, si trovano a dover richiedere due turni per portarsele a casa, che è troppo. Quindi il problema è trovare una counter, un hard counter al fast advance, e ancora non ci sono riusciti, secondo me. Questa carta di per sé va bene, messa nell'ottica del fast advance è un problema. Bello, sarà la prossima sfida del pensa se stampassero. Hard counter del fast advance. Bella idea, mi piace. Bella idea. Sì, d'accordo. Sì. Bueno. Bene, è andata ragazzi, abbiamo fatto la corp. E mi scuso anticipatamente per la lunghezza interminabile del podcast, però Honor and Profit sposta completamente il meta, quindi c'è del sugo, esatto, e manca ancora di giocare i Citechi. Ah, esatto, no, ma poi dai, cioè, da quant'è che aspettavamo tutti quanti il gioco di provare un mazzo Citechi che perlomeno funzionasse, insomma, no. Ci può stare. Sì. Sentite, io saluto Francesco, che sono sicuro che se ne va. Sì, devo andare. Arrivederci a tutti, ragazzi. Ciao Francesco. Ciao, alla prossima. Ciao. I've seen things you people wouldn't believe. Maintenance mode turned on. Jack out.